pianeta Terra. Si sciopedi lì, la gran massa brigaglia, tutti i gatti, si sciopedi lì. Attento Antonio. Stai innescando, eh? E adesso? Ancora. E adesso 1, 2, 3, ancora. 1, 2, 3, 4. Adesso no, ma sei satiro. Satiro. Via. Bravo. Aspetta, cambia il microfono. Cambia Antonio, cambia che sei satira. Adesso sono con il microfono normale. Lascia questo Antonio, che è una radio micidiale. Sto usando il magno S9, quello americano. La bandiera americana originale. Lascia, va bene. L'altro era Saturno e non sta andando. Mandami la foto, ma c'è il mio numero tu? Ma posso mandare la foto perché c'è WhatsApp che devo controllare, perché è Destap mi chiede, capito? E quindi devo fare tutto quanto da capo. Ah, ho capito. Ma quello è il tuo? È al mio lavoro. Ti ripeto, le cose che dici. va bene. Ho detto che una volta il mio, ce l'avevo io, poi l'avevo venduto. Tutto là. Ehi, ho capito. Di chi è ora? Il marino è. Si è pesato lui. Ah, ok. Da te, salutano. No, io c'ho il baracchino, lui a casa sua, in casa sua. Sta lavorando, poveraccio. Anzi, sta a dubbio da vettura, sta a dubbio da vettura. Ci vede un po'? Non mi lamento più, ma come funziona. Ok. Non mi piace quell'eco. Perché tu fai ok. E l'eco suo originale. Vabbè, ma non mi piace. Toglilo. Se puoi, toglilo. Allora, posso tolto. Meglio. Ma qual è quello che è il coso rotondo? Lo smetto rotondo. Via. Che diventa blu in ricezione e rosso in trasmissione. Ho capito. Acqua comprendio. E quello vendendo lo sta? No, non lo sta vendendo mica. Se l'ha comprato da me, vuoi che se lo venda. No, non lo sta vendendo, no. Lo usa lui questo, a casa. Maledetto, non ha detto niente che ce la vedi. Sì, adesso non ho detto niente. Ci hanno messo le fotografie su Facebook. Un po' di tempo fa, io ti parlo di 5-6 mesi fa, né di più né di meno. No. Aspetta che guardo. Lo guardo nel coso, invece come si chiama, se è quello che sto dicendo io. Aspetta, allora. Prima di avere il Kenwu, tu c'avevo il 140, c'avevo questo. Ho fatto vendendo questo qui e prendendomi il... No, neanche, aspetta, ma non me la metto più. Mi sembra 140, l'ultima parecchia che avevo comprato. Sì, quindi. Ci dovrebbe essere nelle foto vecchie di Facebook. C'ero nel telefonino con l'arancione, non in questo. Vabbè, ma come si chiama? S9 e poi altro c'è. No, c'è scritto Magnum S9 e c'è il disegno frontale della bandiera americana celeste, hai capito? Tutto celeste. Dovrebbe essere, vabbè, qua non c'è. Aspetta, eccola qua. Costava un pacco di soldi questo apparecchio qua, mi sembra veniva intorno ai 250-800 euro di valutazione. Sì, già è bello, già è bello. Allora, maestro Nico, se c'è il prezzo qua, vediamo un attimino, bla bla bla bla bla bla. Questo non c'è il prezzo. No, qua non c'è. Qua è la 50 watt, allora AM 50 watt, così può essere. Ciao, la lettura è diretto, ciao, Nero. La verità non ci ho mai fatto caso se c'è 50 watt. Perché watt metto, non l'ho mai messo. Però c'è il dissipatore grosso dietro. Allora già può essere un se già può essere così. Infatti ce ne sono due versioni, uno la bandiera americana e c'è l'altro ha le tre strisce bianche. Vediamo un attimo se riesco a trovare. Vediamo, aspetta. Sì, questo è quello con la bandiera americana. Nel frontale. Capito? Questo già è bello, come apparato, è bello, veramente è bello, ci sto bene. Sì, io lo so, ma è bello, sento un bello prezzo però che. Non riesco a trovare il prezzo. Sto usando come microfono normale quello nero, a static. È presente, quello che c'ha il capo c'era all'interno con quella fare che usi tu per farti la doccia, me. Ah, sì, ho capito. No, ma è molto migliore quel microfono che l'altro che stavo utilizzando, perché questo qua è molto più amplificato. Sì, vabbè, poco fa stavo usando l'MP più 4, quello che ho comprato neanche una settimana da Fusaro, 75 euro. No, vabbè, qua non lo vedo il prezzo, 3,50, nuovo però, Sì, c'è un nuovo, non c'è manco un graffio, nuovo, stavo dire nuovo. Nuovo, come l'ho usato io, nuovo, l'ho dato a lui e lui la si sente qualcosa, perché lui ci tiene a queste cose qua, e le cose le mantiene come le compra, sale uguale. Va bene, poi ce n'è un altro, però è accessoriato, quindi è 200 watt quest'altro. Ma vabbè, poi dipende, uno fa la qualità della scelta in base a quello che vuole comprare, in base ai soldi che vuole spendere. Per quella città lì compri un bella pezzo, però è una bella radio anche questa. Già lo so. Ho la caffè mia, ho preso, già lo sai, l'857B. E quindi basta avanti a quello, qua te banda. Nuovo, fiammante. C'ha tutti gli accessori su originali, non c'è un graffio. Come ho venduto il coso? È stato un negozio a voi. Che l'ha preso coso? L'ha preso al volo. Non so qua, c'era quanto l'ho pagato io, glielo dato. Né di più né di meno. Guardate il microfono originale del 2009. Tutto va funzionando bene, mi ha detto. Io la sto contento, io la mondezza non lo sai, non le do. Io se c'è un apparecchio per dire che c'è qualche difetto di trimmer, vado, glieli copro, glieli cambio, tanto non è che sia questo problema. Sono 20 centesimi, 30 centesimi la spesa, non me ne fate nulla. Però l'apparecchio di apparato deve tornare originale come era normale quando nasce. Sì. E questo per dire addirittura la versione di 175 watt in SSD. Non lo dice quanti watt ha. Però non mi dice neanche il prezzo qua, perché mi dice esaurito. Non c'è. Vabbè, fatti con te, 165 in banda laterale, sono la metà in AM. 75 watt, una cosa del genere, vabbè, 70 e qualcosa. Vabbè. Ma è una bella radio, per carità, niente da dire. Poi diciamo che poi c'è anche l'altro, a me mi piace quello stesso, solo che è il flight. Sai che non so solo che ha lo smitter a LED. Cos'è il president? No, sempre versione 9, Striker si chiama, e ha lo smitter a LED, anziché rotondo con la lancetta. Ah, LED rosso, ho capito, ci sono occhialisti con la testa. No, non l'ho mai visto la verità, sarà bello lo stesso. Ma è bella che cosa, mi è stato un turbo se c'è stato un fallo. Sono i 200 euro, capito? Quello sì che era bello, è stato un turbo. 100 watt d'uscita all'interno e c'è la tastiera avanti. Sono di quelli che sono i pochi, io. Qual è il Saturno? Qual è? Saturno Turbo. Vediamo se adesso a provarlo. Saturno, così, Saturno. Sì, Saturno Turbo. Galaxy per me, Galaxy, Saturno Turbo. Ah, sì, ho capito, no, non mi piace. Vabbè, a chi piace? Guarda, sai l'unica cosa mi piace, quell'apparecchio cinese, però è un casino a farlo arrivare. Quell'apparato cinese, quell'HF, quello sì che era bello. Costava 190 euro, costava. Il problema è farlo arrivare dalla Cina. Hai capito? Era, vabbè, prima era difficile, adesso forse viene più facile che altro, ordinarlo, perché si apre la via della setta, hai capito, mi è molto molto più facile arrivare alla Roma. Quando la ordini da qualche negozio cinese te la puoi anche prendere. È all'FT, il Fettongo 808, se mi ricordo male. Quello già è bello. No, è quello. Dimmi la sigla. La sigla è Fettong 808. Vediamo se mi dà qualche cosa. Non mi dà nulla di errato a quello che metto tu. È un FT, Fettong. Sì, Fettong 808. Vediamo cosa fai, FT 808. Tanto ti risulta lo stesso. Che bella parecchio, c'è Marco qua che sta ascoltando, fatelo dire a lui. Quello me lo sognavo la notte. Adesso che magari aprono la via della setta, che dovessero aprire dei negozi di elettronica ai cinesi, ci vado e me lo ordino. Tanto viene 200 euro, viene. Non viene né di più né di meno. Ma cos'è? Uno quadribanda, cos'è? Metrico, da 0 a non mi ricordo se è 32, non mi ricordo bene adesso. Va bene, va bene. No, non è che mi piace, non è che mi piace tanto quella radio. Per quello preferisco più. Sì, è bella massiccia, lo display grande, è bello. Però. Guarda, se guardi su YouTube la modulazione che manda laterale, sembra che stai parlando da M. Altro che palatini normali, c'è una bella ricezione, c'è quel tipo di apparato, ecco perché mi piace. Poi l'unica persona che ce l'ha è un italiano, ce l'ha e basta. Ha fatto gli ex, si è messo in macchina con l'antenna, basta, si guardi il filmato su YouTube, è di un animatore, c'è scritto anche nominativo, c'è scritto. Sarà bene, e vabbè, questa è la radio, quanto è, gioia di lui. Sì, vabbè, adesso non serve molto, il discorso è quello, una volta c'era il giro. Adesso se ti carichi di baracchini e di radio così, cosa fai? Ti attacchi a spalla e ti attacchi. Quelli che ci abbiamo ci teniamo. E allora, ma, ti puoi immaginare. No, io... Sì, già mi piace, però non ho... E poi uno fa la priorità delle cose, no? Valuta se si può spendere con la cifra lì o meno, perché magari... Dipende, dai, se ne hai in più te lo compri, se no ciccia. Ah, beh, quello sì. Mi dice che c'è qualche animatore così che ha questa passione, che odia gli apparati là fuori, solo quello. Capito? E anche tu c'hai il Facebook. Solo va, te lo può chiedere una cosa del genere. Sì. Lui parla in americano, in inglese, quello che ti fa l'ordine, tanto veniva $400 appena, secondo me sembra 220 euro, 250 euro, una cosa del genere. E così lo trovi bello, c'ha cioè una bella tastiera, un bello massiccio, e quello mi piace parecchio. Solo che sono proibito finora, a meno che non si giugliano qui a stasera, dove facevano arrivare questi contatti lì, quelli che è meglio, chissà che lo facciano arrivare qualche recamente, insomma. Provarci, e vabbè, ma guarda, vediamo un attimino, cavolo, aspetta un attimino. Ho fatto un bel collegamento, ma sto arrivando a Forte, lì vicino che quantità, tanto diciamo, là, non si fa, 9.10, 9.15, come l'erano qua? Io stavo minimo che non sento propagazione un anno, figurati. La maggior parte ormai sta usando questo cavolo di cosa che c'è in camion. Sì, c'è il baracchino, però sta usando anche l'applicazione, quindi è molto difficile che senti qualcuno. Capito, in propagazione così. Io non ho più sentito nessuno, manco gli spagnoli, ma solo l'altro. Una volta c'era, era pieno. Ho preventato molto giù, la banda cittadina sembra che siamo solamente chiusi qua e facciamo stanza di conto e se torniamo indietro, se abbiamo parlato con un PMR. Sì, no, stamattina c'era un po' di propagazione, facendo che stavo parlando così e 9, mi sembra che era una zona di Brindisi, quella parte lì da aiutami, non cavolo si chiamava la questa, se avessi stato guardo te lo dico, vabbè, comunque quella parte di Lecce, quella parte lì da. Ah, io vabbè, noi lo sai che ci abbiamo aperto la Sicilia, Calabria, Sicilia, le parti di Lecce, la Puglia, è molto difficile sentiamo la zona del diciamo di Roma, poi abbiamo due d'Italia, Torino, Milano, Genova, non più, ce l'abbiamo vicino e poi non voglio, siamo parecchio, non assenti. Con la propagazione siamo strani, sento più i russi io che altro qua, so che adesso neanche quello mi sentito, sono spariti, russi, Polonia, c'era un periodo che c'erano ripetitori sul canale 5 e poi si è spostato sul 6. Io parlavo e il ripetitore parlo se ripeteva la parola intera. Era un ripetitore, non so se era dalla Polonia, la vediamo dove era, dalla Bavia. Poi è solo parecchio che non lo sento più. Ecco qua, ho provato. Un salentino. Del Salento. Vabbè, comunque sempre. Sempre dove una Lecce, diciamo, alla fine al tacco dell'Italia, per farti capire dove è più preciso. Ti arrivavano 9.10, 9.15, poi io ho usato stavo usando questa radio qua, no? Aspetta, che ne so, 6 watt, massimo 10, ma proprio fischiando, sono volati nella 8.9. Poi ho attaccato il 48, Antonio il 747, caspita, 9.25, caspita, un segnalone. Beh, già lo credo. Quando usavo io il VV 2001, arrivavo a fondo scala in tutti i posti, compresero anche al ghetto. Poi a un certo punto mi sarebbe valsa la pena, ma l'unica cosa è solo quando dove ci sono mappate, più che i condensatori si spaccano, vai a cercare i condensatori e svuotarlo tutto. Alla fine a un certo punto la giornata doveva a pizzi e se la piglia in culo. Doveva la macchina appena smontato. Se fare poco di casino, per smontare i BV 2001 per cambiare due condensatori in cazzo anche. Vabbè, se ce l'hai lo rompi, se no ciccia, lo lasci lì fermo, lo sai, non vale la pena. Sì, ma va quello tanto improvvisato, ma è senza più. Cosa devi fare? C'ho un RC58 io, se uso 600 watt con quel cavo, lo sai quanto mi dura? 15 secondi, e me lo trovo tutto sciolto. Non ne faccio più buchi come prima, no? A stamparmi il muro, a farmi buchi da... Però sì, quanto il cavo, no? Poi addirittura facciamo tre discese, figurati tu. Non saranno, non buco più un muro così in casa, no? Ho fatto un foro piccolo, ci passano tre capi, 2058 e basta, a me, poi il resto non me ne frega niente. Come esco, che mi sente, che non mi sente se la tocca in culo. Basta di mettere le finali, ho pareggiato lo bravo. Ciao Fra. Ciao Tino. Ciao Fra, ciao, buonasera. La c'entra uno se si fa la sono un po' qua prima, anche io a casa di mamma quando abitavo la Feroce ho dovuto prendere una punta lunga 60 cm perché le mura erano doppi cantoni con camera d'aria e poi l'ho fatto entrare il capo, dopodiché l'ho sigillato in maniera tale che non entrava né umidità né niente e ciccia, è andata così. Sì, vabbè, ma io per foro ce l'ho così grosso, vuoi dirci tu? Ce l'ho solo il camera da letto e c'è anche la scatola, capito? Per caso mi dovessi un domani installare il cavo grosso e cose del genere, mi piazzo gli apparati in camera da letto, quelli grandi. Quello valutato me lo passo invece nella cameretta dove sono la letto, capito? È vero. C'era una propagazione qua stamattina, allucinante. No, non ho acceso niente, l'ho acceso adesso. Era tutta la mattina di me. Sono una settimana che sto lavorando. Lo so. Finito, No, ancora no, domani dovrei completare. Ho capito. Va bene, aspetta un attimino. Ditemi se cambia qualche cosa, sto schiacciando dei tap, allora 1, 2, 3, ha cambiato qualche cosa, no? No, da parte mia no. Aspetta un attimino, vediamo un attimino così, non ha cambiato niente, vero? No, non vedo variazione. Bene, invece guarda un attimino così, ora, e così ha cambiato qualcosa? No, sarà strano, ma non riesco a capire la differenza. Meglio, ora. Aspetta, come cavolo è? Ora. E adesso ha cambiato qualcosa fra? No. Bene. No, perché vedo che lo smitter che va oltre di quanto deve andare, capito? Pensavo che magari aumentava di watt anche facendo così, ok. Sì, cioè sta spingendo, la radio, si vede che sta spingendo, però è che come modulazione è sempre la stessa, come potenza è sempre la stessa. Va bene, no, era giusto, siccome per la radio ha due strumenti, il modulatore è la ferma 5, invece adesso fa da 5 a 9,20, 9,30, quindi sicuramente è quello il motivo. Va bene così. Ora. E invece così rimane sempre fisso, hai capito? Invece così è oscillato. Qua invece tutti positivi e tutti e due passaggi. Uguali. Sì, vabbè, fra, un orario non va a tanti watt, va con un parte da 6, arriva a 8, 9, massimo 10 in picchi positivi, non di più. Ecco, io ho 48 che mi dà 2 watt, da 2 watt. Però non so come andare, ho chiesto mia cosa, ho chiesto a Massimiliano, però approssimativamente vicino al metro di guardare, vicino al modulatore, però vicino al modulatore da toccare le viti ce ne sono tanti, non mi fido. Ah, guarda, io ho dato a... perché anche il mio ha la stessa... lo stesso problema, uno dei due, ha lo stesso problema con l'eco, ti ricordi che ho abbinato la scatola eco per l'hai detto tu, sono due fa fissi, quindi neanche modulati, non salivano quasi niente, e quello però, ho fatto la modifica, andava da mezzo watt a 18-20 watt, quindi se qualcosina è successo, adesso invece è ferma a 2 watt. Ho la fortuna, adesso vediamo cosa nasce fuori, ma dovrei controllare. Capa, ma c'è qualcuno che gli fa queste cose? Ne, a me non lo stanno facendo per cortesia, almeno qua a Sassari. Forse deve fare bene dove si serve Massimiliano, metà Sardegna, per dirti presa poco dove l'ho fatto. Albino, l'aveva fatto a me quello lì. Quello che proprio ho dato, che adesso è a 2 watt, però non lo so, adesso vediamo se andarci o meno, perché dovevo andare con Daniele sinceramente a portarci questo qua, ma se risolve anche io non ci scendo. Capa, no, ma io non mica lo voglio modificare, no, sì, ho capito Albino che stai dicendo, no, ma io mica lo voglio modificare, io voglio solo mettere almeno 5, 6, 7 watt, se va, perché dice che il 48, aumentandolo al massimo va almeno 9, 10 watt. Ah, dipende, io ti ripeto, quello che mi ha fatto Albino, me l'ha fatto da, non mi ricordo se era mezzo watt o un watt, adesso non voglio dirti stupidaggine, comunque fai sia mezzo watt e mi toccava la soglia dei 18-20 watt. Vabbè, se gli ha fatto qualche modifica di qualcosa, dai, gli avrà cambiato qualcosa, gli avrà messo in più, perché se no i finali sono sempre quelli. Gli avrà cambiato sì, sicuramente, io poco ma intendo. No, io non voglio solo aumentare di watt e basta, perché originalmente sicuramente questi vanno a 5 watt, originalmente, ma questo spazio mi dà 2 watt, mi dà non di più. Guarda che ci sono due truffe ferrite con due bobine vicino alla finale per finale. La prima dove c'è il 2314 in pratica lo devi sollevare e l'altro devi abbassare. Io non lo so, avrei saputo qual è di preciso, sarei andato e ci avrei toccato, ma io andarci alla cerca non voglio scacciavitarlo, capito? Perché non è nuovo, non è stato mai aperto. Antonello lo fa, Antonello lo sa quale deve toccare, lui gli fa da una vita, l'ha fatto anche il mio. Lui già lo sa fare, si apre i porti, si inagana, e lui Antonello. Lo sa, Flaco, quando vuole viene, 2 minuti e glielo faccio, ci vuole 2 minuti. Ho piato due cacciaviti da come si chiama, da oggiaio. Capito, devo togliere la cera che c'è intorno al ferrito e poi una volta che fa il watt, metto, ho regolato il watt a maletta, gli metto dopo la cera e non si muove più. Naturalmente devo staccare come si chiama, quello che c'è all'interno, perché quello va staccato, c'è il filtro di omologazione, quello devo fare l'attacco diretto, hai capito? Non lo so, vabbè, là. Vuol dire che rimane a 2 watt, si abbia in luce, non faccio un lavoro, insomma. Era solo per aumentare un cosettino, va bene. Sì, ma è utile che ti vengono quei due poteri, quei due fusi, dunque il ferrite si è un distacco la scatolina dove c'è il filtro di modulazione. Hai capito? Che all'interno. Va staccato a quello e la massa va agganciata allo chassis. E il positivo direttamente all'altra con il PN. Se no non ti dai fatti, hai capito? Una volta fatto quel lavoretto lì, si regola quello con i ferriti. E la fesseria a farlo, l'ho fatto l'FM500S io, che ce l'ho qua a casa, quello che mi ha regalato Marco, poi l'ho fatto un sacco di gente, è una cazzata a fare quella modifica, ce l'ho vista come si fa io. Antoine, non so, me l'hai fatto vedere in diretta, ma io non me ricordo niente, sinceramente, credimi. Sì, l'avevo fatto anche nel mio, già me lo ricordo. Nel primo però non ho, infatti sta ancora funzionando. Allora, il primo. Questo qua, adesso mi sono guardato, 3 minuti. Vabbè, io, siamo vicini ai picchi positivi in questo apparato, è molto generoso, quindi sì, 9,10, 9,20 stai andando, quindi. Vabbè, noi, vabbè, lasciamo da quello che sono molto vicino. Però come modulazione, se la sono leggermente la voce mi ha fatto qua. Ma guarda che va bene, per me va bene, anzi, con la modulazione mi dare questa che quello che stavo utilizzando per poco. E sai cosa stavo pensando? Questo è il mio linearetto, questo 47, questo qua spinge. Spinge bene, spinge anche bene. Ecco, per quello che stavo pensando, ma sì. In effetti non so se mi prendo il 747 dove non è attaccabile alla gola. Guarda, spinge come questo, eccolo qua. Non distorce, non va in attrappare, non va niente. Poi giustamente ti devi mettere un microfono che sia adatto a quel tipo di apparato lì. Questo è il 48 con il 747. Esatto. Ma io qua adesso sono liscio, non devo lineare attaccato. Io ho messo il coso, il 24. Anzi, voglio fare una cosa. Adesso mi aggancio il 131. Quello però non lo so. Forse con la MOSFET è meglio. Quello non lo so se ce la farà. Ma dovrebbe pilotarlo bene comunque. Adesso ci provo, adesso lo metto a scaldare. Vabbè. Non ci penso. Sì, dovrebbe andare comunque. Va bene, no, io infatti me l'ho tenuto attaccato con questo perché ho visto che purtroppo prende troppi splatter e poi vuole aumentata forse un pochino la recezione perché è un po' sordo, ma già ne ho di per ascoltare. Ecco, mi prendi il tarello qui? No, il tarello gli ho detto, riprendi. Sì, io sono qua, sto trovando questa parecchia già da ieri. Non so che cos'è, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, 6, prova, piano piano sto cercando di ricordarmelo come funziona. Oh, scusate un attimino che devo parlare in verticale, ci sentiamo dopo perché c'è gente. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, cioè. D'accordo. E allora fra. Aspetta, come non sai, ti attacco il cavo al bebù. Sì, fai pure là. Sciucco giù. 1, 2, 3, 4. Ok, Antonello? Dimmi. Antonello? Sì, sono qua, dimmi. Ehi, non ti ascoltavo, ma come vuoi? Il basso. Sì, lui l'ha toccato, è sempre uguale la sensazione, non ha toccato niente. Certo. Ma è una situazione è impossibile. Sto usando solo un ecco. E basta. Hola. fatto, vieni a vedere così, e non è che mi sta dando tanto, mi dovrebbe dare qualcosina in più. 8, quasi 9. Quasi 9? Ehi, per poco di poco fa. Come mai? Oh, è così, vieni a vedere. Ah, aspetta, poco fa mi ha fatto sul coso, ma forse stavo dicendo la scala di sotto, appunto di quella di sopra di questi. Come questa palacchina qua c'ha due scale, c'è quella di sotto che va da 0 a più 40 e quella di sopra va a 9,20, tanti che sapevo i watt, capito? Quando parlo, questa palacchina qua sta portante 18, uscita quasi 35,40. Ah, ecco. Ora, ora, ora. Come mai? Oh, ok. Vabbè, dai. Così mi sta dando 50 watt, mi sta dando. Anzi, no, questo sto dicendo. 70 watt. Io so pure. A voglia. Cappola che sono buoni, la buia, e la modulazione del microfono, buone. Eglia perfetta, 5. Cappola, no, già va bene, dai. Va benissimo, poi vediamo come si comporta quando scalda ancora di più. Basta attaccarlo, lo fai scaldare un po' di più, se non gli metti fuoco nel sedere. No, adesso gli metto un po' di legna e gli faccio il fuoco. E allora, buona Giulia. A Tino si era allontanato? E io a Tino si era allontanato. L'avano chiamato senz'altro. Ecco, andare. Bene, bene. E oggi è caduto. Ah. Anda bene, vera, chiudo bene, vera. E beh, a te, a cosa, non è più sentito. Come si chiama, tu mio? Giuseppe, là. Stamattina l'ho visto, stamattina. Era insieme a me qua a casa. Ah, eravate sul circo? No. Quando è uscito dal circo l'ho venuto direttamente qua a casa. Capito? E quindi la mamma si è. Dopodiché è andato via. Adesso è questo. Oh. 19.09. Brava, brava. Capo, c'è la modulazione bassa tu c'hai. E quella là dove ci sono gli spagnoli ci stai più andando? Sì, lo accendo. Ci vuole essere Giuseppe sempre lì, sul canale 14. Di solito sempre lì. Poi vado sul 7 spagnolo. Io ce l'ho acceso su uno, ma non c'è nessuno. Cioè, 14, vedi? Faccio provare a andare fuori. Beh, in Italia non mi batte niente. Non mi batte un cazzo. Allora, dai, mi scappa la Germania, la Spagna, canale 5, 6, 7. 14 persone ci sono. Ma stai guardando lontano dal microfono oppure non capisco niente di quello che dici Antonello? Aspetta, guarda Pavese. Pure ti do il ruolo, puoi cercare la presenza. Una grazie ancora per il canale dell'entità di Spagna, molto bonita. E nada, hoy estaremos por ahí fuera y mañana haremos una rutita hasta el mediodía, luego capisce niente. Ah, aspetta che attacco l'altro palacchino, va, attacco questo, un attimo attacco l'altro. Ecco. Sì, non tu sì. Ci sei? Sì, io ci sono. Aspetta, senti. Ci vuole dietro? Mi corte il pelo, volevo dire portale e il tipo tanto che la luna si... Sì, mi stanno ampliando il chassis. Nel caso che io noto mucha presión, sì, no sé si será por eso. Guardate là, a ver si se te pesa. Ma questo è il canale sette degli spagnoli? Sì, canale sette, sì, certo. Uno si chiama, sono 15 persone, questo si chiama Kelly, poi gli altri, come cavolo si chiama, non so, aspetta, uno si chiama Califa Luis. E ci metti in Spagna e spara. Una volta che ti hai messo la V nel quadratino, te la stai come la vuoi chiamare, quella V, ti segna, dopo il canale Itta, col dito, vai ancora più su, hai capito? E poi ti appare e spara, ti appare ESP, c'è scritto 13 da una parte e 07 dall'altra. Ma ci sono già, e ce l'avevo già il coso della Spagna, il canale 7, 07, e spa 7, 07, ci sono 11 persone. Esatto, sì, 11 persone. Ci sono già lì. Perfetto, perfetto. Io sono stato per parlare con Giuseppe. Poi sono entrati due o tre, ci hanno fatto compagnia, spagnoli, poi sono andati via. Uno era catalano addirittura. La Catalogna, lei dice abbassa il microfono, infatti ho dovuto mettere il microfono automatico. Già era un giorno che non entravo qua. Acceso adesso perché stavo anche per cancellarlo, poi l'ho lasciato, ho detto ma ah, capito, adesso sento qualche giorno un programma dove mi guardo la TV, si chiama tutto. Che vale tutte le TV che ci sono, come lo Sky. Si chiama TV. Fatto. Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Ehi, vabbè. No, cos'è? Lì sul telefonino, perché no, quello lì, mi guardo i film che ci sono. I film, io ho pensato, ma se ci manca il partito, lì, per mio fratello, siccome giù il televisore che c'hanno, no, su quel wifi non pigliano accidente, c'ha lo smart TV, ma no, il segnale è debole perché c'ha una centralina e non serve un tubo. Adesso gliela voglio cambiare, gli voglio mettere quella della telecom. Vediamo se funziona. E c'è più potenza, c'ha capito. Vediamo se gli dà il segnale smart TV, almeno lui si guarda la roba come c'è, perché gli hanno caricato questo programma di merda che, capito, troppi giga, capito? Adesso via che li faccio cancellare, gli metto questa cosa qua, così se guardassi le partite, per dire della Dinamo in diretta, capito? O qualche partita di calcio, va lì e direttamente se lo guarda dal televisore. Certo, sì, per guardare un po' di tutto, va lì per guardare. Ok. Dai, puoi guardare un po' di tutto, film, partite, queste cose qua, ma è una cosa che non mi è mai interessata, quello. Proprio, se che si mette quello, perché gli interessano le partite. Mi ha attaccato il cavetto là dietro, parlando a solo. Cosa avevi staccato? Il cavetto da dietro? Mi sono staccato il cavetto da dietro all'alimentatore, quindi stavo tutto notato, si aspetta il baracchino. A forza di stare a tira e con questo alimentatore, bisogna pigliare l'alimentatore cinese, così mi faccio la separazione degli apparati, quelli piccoli, li aggancio sull'alimentatore cinese, con l'avvento e gli altri, quello professionale ce l'attacco l'aggancio all'altra parte, sono un casino, comunque se banale, agganciare a destra, a sinistra. Guarda, è pericoloso lanciare banale, devi stare attento, perché fanno la boomerang. Già lo so, mi hai sgabizzato. Non stai attento. Se c'ho l'alimentatore vecchio come il cucco, c'era se no 40 anni, c'ho dall'84 con l'alimentatore. Adesso me lo cambio, piglia in culo. Già che me lo cambio e me lo prendo 30 euro di quelli cinesi. Ce lo metto dentro uno scatolone, ma riesce lo scatolone di un raggio, mi faccio l'alimentatore professionale. Ma cosa? 30 euro. Vai quello che c'è di fronte a cosa? Come si chiama? La monoconvenienza, quello di fronte. 25 euro, quello da 50 ampere. E se lo vado lì a fianco, già ho capito quello che stai dicendo, a fianco alla monoconvenienza. Allora lui me lo prendo lì. Prendo quello da 1,5 per fare riparazione e l'altro da 50 ampere. E allora, guarda, io ho visto io perché non me ne serve, perché se no me l'avrei preso, mi avevo preso io uno da 30 ampere, mi avevo comprato, e ce l'ho, quello lì, però non sapevo che lì c'erano, non c'ero andato ancora lì a vedere, che c'erano da 50 ampere per 25, io ho pagato 18 euro, quello a 30, l'ho pagato. Hai detto, con 7 euro in più che me lo compravo da 50. Figurati, quindi, vabbè, invece la parola l'avevo pagato 30 ampere, 30 euro, figurati. Vabbè, pazienza. Capo, no, ma io adesso con gli alimentatori, anzi ne ho due che non li sto usando, ne ho uno da 30 e uno è l'HP12, che è come della ZG, che non lo sto usando, sono da parte, però servono sempre in caso di emergenza. C'è anche io un ZG che mi vogliono dare, devo solo andare tirando, c'è gli strumenti. capito. Mi ha dato la magnetica l'altro giorno, con la HFS, di rivelare quella diventata elico, ho preso una palca, uno di quelli decametrici. Già me lo sistemo io. Quella, se c'è qualche problema. Capito? Aspetta un minuto e rientro subito. Ehi capo, dai, sono qua ancora per un po', ci sono, dai, non me la vado a farmi una luce. Mi sono rientrato. Chiara! Ehi! Abbassa questa cosa che ti fai andare. Sì. Abbassa, abbassa. Ebbene, a te, ok. Se vede che vuoi, se vede. E come mai? Non me ne ero accorto. Come mai? Strano. Ancora, Mari? Ehi, capo, dai. Probabilmente stavo facendo che vuoi. Quanto volte magari ho qualche piede, c'è stato qualche piede messo male che c'hai. È strano, non hai mai disturbato in vita tua, il suo viaggio, su? Ehi, capo, lei, no, adesso ho abbassato un po' la potenza. L'ho scesa a 40, l'ho scesa, e va bene, aspetta, adesso lo provo a 50 a vedere. Ok, ancora Mari, prendi, eh? No. Ancora no, aspetta, eh. No, sì, no, non mi sento più bene. Ok, e la mani? No. No, no, che sono cavato, va bene. Antone! Una portante c'hai sotto? Una portante? No, ero io! Ah, tu eri? Ah. No, siccome c'era, dopo che hai finito di parlare, c'era una portante sotto, di tu? No, mi sono stato zitto io mi stavo regolando la potenza della radio, dei watt. Quando andavo a 70, a 70 watt perché tu vuoi. Ti faccio una cosa leggera, è molto strano. Ehi, no, ma probabile che perché non ho agganciato velocemente, probabile che c'è anche qualche cosa che non va, perché non me l'ha fatto mai. È la prima volta che me lo fa, però non lo so per quale motivo, però dovrebbe la ribassa. Secondo me c'è portante, aspetta, va. Oh, allora è da lì, vicino a te, quando? Il segnale 9 era, non è la volta. Oh, e allora è vicino a te. Adesso non c'è più. Ehi, capo, te io, ma ti arrivo 9, se è 9, se da poco fa potrebbe essere io. No, tu sei 9.10 in questa roba, adesso sto dando una 8.7, già si nota la differente. Ah, capo, dai. Ehi, vabbè, vuol dire che qualcuno si vuole giocare. Può essere anche qualcuno in propagazione. C'è Antonio Bombolo che ti sta salutando. Negativo, non lo ascolto, salutamelo. Non so se lui mi sente, però guarda, mi dispiace, non lo sento. Bravo, se mi senti. Sono io, in ingresso, scusate. Adesso sei 9.24. Ah! Dice che riesco a tirarlo fuori da adesso Antonio Bombolo. Antonio? Ehi, capo, ciao a tu, basso, sì, radio incomprensibile quasi, ci sentiamo, dai, per me non riesco a tirarti fuori, Come hai detto, Antonio? Con quell'apparecchio semi, in pratica, che è bravo che lo stai usando. Ehi, capo, sto usando adesso, voi siete sopra ammogliati. Ma è strano che non lo ascolto, prima lo ascoltavo tu e adesso no, come vai? Sì, che buona sei. Cazzo, è strano, a tu. Strano, io a tutti, mi c'era di fronte in teoria. Ma quella è la posizione, questa rossa. Ottanto, a lui poi. Attore, c'è un segnale di 3 e c'è in mezzo al QRM. A voi che sia anche al QRM non ti capisco niente. Non ho capito adesso. Non riuscite a sentirvi? Bianco un attimo per lei, che prendo fra poco. Ehi, attore, io vado a comunicare, dai, che vado a farmi una doccia. Ci sentiamo più tardi magari. Tra mezz'ora, un'oretta. Ciao tu, ci sentiamo, dai. Mi dispiace che non ci sentiamo, che non riesco a tirarti fuori. Ciao, buona proseguo di serata. Black. Allora, buonasera a tutti, doppio lu. Buonasera a tutti. E allora, che mi contate se non c'è nessuno stasera, solo voi ci siete. Ciao Gian. Ciao Fra. Andate a tenere stato. Ehi, fammi una luce, poi rientro, dai. Fammi una luce, sto andando. Che non ce la faccio più. E poi già ci sentiamo, dai. E c'è Antonello e Cosio e Antonio Bombo. No, ma no, io già me la sono già fatta la luce. Mi sto rilassando da un po', sono un po' stanco. Vieni a te, infatti lui non a te, sta via bene. Va bene, a dopo, va. A dopo, a dopo. Antonio, beh. Bombo, la pranzo. Che affari che stai usando? Va bene, non c'è niente da dire. La radio è buona, è forte anche il segnale, va bene. Sempre con quell'antenna stai uscendo. Ah no, con quella attaccata alla calamita alla finestra. Non so appunto il ritardo, sì, non so appunto mai il ritardo, me l'ha detto Gianfranco Corraluzza. Ma le te perché non me l'ha detto? Ero già detto, ero al funerale. Perché non me l'ha detto prima? Adesso, purtroppo, sono cose che succedono nella vita. Maria, è nonna, viva! Ho detto, è nonna, ancora viva! Noi... Quindi siete soli adesso. Cava gala. Vabbè, tanto ma che Dio, fino ci sono parole. Mi dispiace molto. La vita continua. Tu hai una compagna adesso. Una vive con te. Beh, allora dai una mano per la data. Quello sì. Vabbè, dai. Bisogna ricordarsi le cose belle e basta, dai. Cosa vuoi fare? Anch'io ho sofferto tanto quando è morta mia madre. Ho fatto un mese che andavo a lavoro sempre piangendo in macchina. E Gianfranco me l'ha detto, ma era già andato, bene, sono andato al funerale, e quando è morto, mi ha detto, io non sapevo niente. Me l'ha detto proprio dopo che è tornato al funerale, perché poi ci siamo trovati, perché gli ho venduto la macchina mia. E quindi ci siamo visti per quello, me l'ha detto lì. Ma non ce l'ha più perché se l'ha rivenduta lui. Ma abita via Valdera adesso quello che ce l'ha. Io l'ho venduta lui, poi lui se l'ha rivenduta. E vabbè. E ancora i remi, sempre cazzo, con 350.000 chilometri camminava come il primo giorno che l'ho comprata. E anche mi ha fatto 350.000 chilometri, non so se mi spiego, non ha mai ciambato né marmitta né frizioni, nulla, cioè non ne cambia nulla, solo il catalizzatore che mi si è ballato e quello l'ho dovuto cambiare, però tutto il resto, ma grazie a Dio non mi ha dato spese, dai. Fatto bene, così risparmio anche col gasolio. Ma no, io mi sono preso la tipo 16 valvole, 120 cavalli, rotte lega, eccetera, eccetera. L'ho presa nuova, dai. Benzina e GPL. Sia GPL o viaggio, me ne dimentichi di mettere, metto 23 euro tutta la settimana a viaggio a Porto Torres. No, è fatto. Eccolo là perché l'è cambiata, dava problemi. Per la dialisi che se n'è andato ho avuto anche problemi. E già una volta va rischiato, mi ricordo, va rischiato di rimanerci, poi si aveva rianimata quel papo e vabbè, cose che succedono, non so, purtroppo non vorremmo che succedessero, ma la vita è fatta così. Vabbè, purtroppo ricordiamoci le cose belle e basta, così almeno non ci fa venire il malumore. Benissimo, una scheggia. Anche la mia c'è il motore, non so se multigenere, consuma poco e corre, se acceneri sale subito a 180, 200 subito, e ti getti, sì, e quello 16 valvole, 120 cavalli. Anche col gas e così con 23 euro io viaggio a Porto Torres, devi contare quello, ne faccio due volte al giorno, viaggio tutta la settimana con 23 euro, 23, 25, dipende, dai, se c'è un po', magari 23, se non c'è proprio secco e 25, dai, una cosa del genere. Ma non è una cosa esagerata, capito? Aspetta. Io? Sì, si sente per me. Ballare sta a la scuola di fa. Ma che a me mi piaceva la ragazza andare, ci andavo sempre. Visto che tu ti metti più a ridere quando io ballavo. Dov'è esattamente? Quello che c'è proprio nel ponte, nella discesa del ponte, cavalcavia. Ah, io non sapevo che ci fosse discoteca lì, buc. Pagavano i maschi, le donne no, i maschi pagavano. Io sono fuori dal giro e io prima reggiavo tutte, andavo ad Amalicuri, all'Ufo Club a Sorso, anche posso dire a Scala Ruia, al Club 24, poi c'è a Coso, Airport 84, a Ussi, che era del padre di Bob, ma il padre di Bob, di come si chiama? Di Giuseppe. Ah, non mi viene il nome. Airport 84, prima era del padre di Giuseppe. Ma non mi viene il nome, ragazzi, come si chiama? Cibimi, Giuseppe. Esatto, era del padre di Leoncino, poi l'aveva venduta. Però siamo andati con Leoncino una volta, saliva che tra gratis, tutto quanto. Poi siamo andati al mare ed era del cugino e ci ha pagato a via. Abbiamo fatto una nottata brava. No, ci brava. Quando guarda, non hai visto quando fa quel filmato al burro? Beh, lo sai che mi ha fatto vincere a me, una volta c'era una festa latte dolce e ero con una donna, cose, mi ha detto lo prendi un biglietto già, e gli ho detto no, mi ha dato lo vinco qua, e pidalo, ti faccio vincere io, mi ha detto, no, tu lo pidi e tu vinci, e lo sai che ho vinto la bottiglia di cuore. Thank you. quante volte lo porto in ambulanza a cotto a quello lì. Ui. In una settimana una volta, tre volte l'abbiamo portato a cotto che picco. Sì, lo so, canta vagabondo di solito, oppure canta quella canzone che ha dedicato alla ragazza, che l'avevano picchiata, ti ricordi? No, vagabondo già la canta bene, quando non è tutto. Sì, ma la volta che si ha tolto la dentiera, mamma mia, che schifo. Infatti non so manco dove, sinceramente, l'ho visto in televisione, però non so dove sia. Dove è andato comunale? Allora, via dei Mamidi. Quella che c'è praticamente dietro il muraglione del coso, ho capito dove. Ho capito. E quando è che lo fanno? Venerdì? Ah, finita. No, l'ho visto, il presentatore non lo conoscevo, non l'ho mai visto. Però ho visto un paio di puntate, l'ho visto al televisore, ci va Luca Manicomi, ci va spesso. Pensavo ci fosse una biglietteria lì all'entrata, io. Ah, non se le forniscono loro le trombette, quella, la sirena dell'ambulanza, io niente si muore la sirena dell'ambulanza. Già li ho visti sì, in televisione, e vabbè, la corrida io là, la seguivo da quando la faceva Corrado, faceva ridere solo lui, come ti guardava, via la faccia mille in culo, era troppo simpatico Corrado, forse è l'unico che l'ha saputa fare bene la corrida, anche Gerry Scotti, ma un po' di meno. vabbè. C'è gente che magari è convinta di saper cantare, cose ci va, tutto convinto e non uscia. Sì, ho visto che tutto il teatro pieno, era tutto quanto pieno. L'ho visto il televisore che inquadravano il pubblico ed era pieno zero. No, che cosa c'è? Ah, basta. Ma io ho capito. E va bene. Già era bravo Giovannino Giorno, a parte come cantante, ma anche come persona so che era abbastanza di greffa, gli piaceva fare dominati, così uscire, era amico di tutti. Là. Ehi, ciao ciao, buona carica, dai, ciao. C'è qualcuno su 10? Attento collega, si ascolti Italia, Nord Sardegna che chiama, cambio. Chi è? Buonasera. Ciao Tino. Hola, hola. Ciao Tino. Oh, buonasera, bene. E allora, che si racconta in giro? Ma io sono appena entrato, che ero fuori al parco con mio figlio a giocare. Solo che adesso c'è un pochino di freschetto e quindi siamo rientrati. Benemeda, benemeda. Via. La giornata non è delle migliori, dai. Già. Scusa un attimino, già, finisco un sms che devo portare a termine e riprendo, Kappa kappa. Avanti. Ciao Lupo Grigio, buonasera. Gianni Lubrofetta, Centro Storico Sassari, buonasera. Sì, sei Santiago 5, Santiago 5-6, la radio è un po' disturbata. Grazie Lupo Grigio, ricambiati. Faccio difficoltà ad ascoltarti, comunque grazie mille. Ricambio i saluti. Ok. Bene, dov'è già, scusami. Non c'è problema. Ecco qua. Aspettate via. Cambia qualche cosa già. Così, guarda, 1, 2, 3. E invece così, 1, 2, 3. Non credo che cambi niente di radio, ma di segnare magari se non porto qualche cosa. Aspetta che non c'ho gli occhiali. Non ho sentito già, vedi. Vai di nuovo. Magari, guarda, provo a attenuarmi o a chiudere le fighe, magari se ne so sui 5, sì. Giusto per vedere se cambia qualcosa, così te ne accorci. Rimango un attimino a portante bianca. Guarda, non ho la possibilità di fare nessun tipo di attenuazione, roba del genere. Qua il segnale praticamente io lo vedo invariato. No, vabbè, ancora non ho fatto la prova, Ecco, guarda, questo è il primo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il secondo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5. Non credo che cambi qualcosa, perché vedo solo dei picchi di modulazione e basta, però per avere una conferma. Ma non, qua non è cambiato granché, sì, qualche picco c'è, però niente di più, niente di meno. Va bene. No, mettiamo. Ora, mettiamo così, dai. Dovrebbe essere il picco massimo questo, quindi. Il segnale qua arriva come al solito, sempre molto buono. Già, sempre i suoi 6 watt, 7 watt, questa è una radio che non gli attacco niente, anche perché non è la mia, ce l'ho in prova e non voglio fare niente di che. Giusto, sto sperimentando qualche manopola che non conoscevo, quindi giusto a provare un pochino come cosa faceva, ecco. Ho capito. Vabbè, già non costa niente girare qualche manopola. No, anzi, ti dirò che essendo anni ferma non fa altro che solo per bene. Poi il problema è che non sai mai come, quando li utilizzi spesso queste cose, o si incollano oppure magari gli dai l'impulso per fare qualcosa e rimane dov'è, quindi ogni tanto è meglio svegliarla, cercare prima di utilizzarla, questa parola lasciata un giorno e una notte senza operarla, e poi ci ho dato di mio, diciamo, con un po' di modulazione. Certo, no, hai fatto più che bene. così gli hai fatto sgranchire il transistor, dai. Oggi siamo tardivi, eh? Ciao già, no, ti ho sentito poc'anzi, solo che avevo gente a casa. Scusati. E niente, quindi ho tenuto che entro, quando c'è Baiane, niente, c'eri tu, Giulio, forse c'era altro profeta, se non sbaglio, vero? No, io sono entrato adesso. Buonasera, doppio room. Sì, mi hai sentito, che appena. No, vabbè, ero ormai un po' di ex. Stavo parlando con Macaluso, con Mario Macaluso. Basta ricarti, io sono un italiano. E muore, dice, mi piace un po' quella canzone. E chi è? Ciao. No, io stamattina ero con Salentino invece. Stavo, ma già, credimi, arrivavano segnaloni 9.10, 9.15 e stavo utilizzando questa radio e infatti la stavano vantando la grande, mi ha detto guarda questa la devi tenere una campana in vetro, e poi vabbè, e aspetta ti faccio sentire l'altra così mi dici se l'ho attaccato il 48 con l'aiuto 9.25 quasi 9.20, 9.30 va bene, va bene. Sì, la faccio a propagazione, sì, e la faccio, va bene, già non credo di andare. E che città c'erano? Salento c'era, stavo parlando con due e stavano facendo un corso locale addirittura, quindi prima uno poi l'altro. Sì, un po' saturo già, eh. Oh, aspetta. Abbassa le turbine già. Eh sì, magari nel corso andava più che bene, ma qua adesso non ho. Ma io sto parlando con questa radio, quindi fai 7 watt, 8 mugulatti, non di più. E loro lo stesso stavano utilizzando, credo, degli apparati simili, perché erano due radioamatoriali, quindi due radioamatori che conoscono benissimo questa radio qua, quindi anche a loro piaceva il vintage. Cava, cava, io ho dato un po' di vitamine poco fa, giusto per farmi sentire, ma non so se mi hanno sentito perché prendevo colpi da voi. Come si suol dire, come mi dicevano a me quando ero ragazzino, gli splatter sono come i dolori, chi ce li ha se li tiene. Già mi attrezzo. Ma per carità, ci mancherebbe altro. Sai quanto ne ha preso io di splatter con il 48, voi, non ne ho idea. Un mese di splatter ho avuto, dopo il secondo mese mi ho comprato il Kimbo, quindi. Per battaglia va bene il 48. Vabbè, poi non è andato perso perché era lì, l'avevo piantato in macchina, quindi avevo uno e l'altro, andava benissimo. A quei tempi andava bene, anche perché poi la maggior parte degli amici ce l'avevano in macchina, quindi si trovavano, non esistevano ancora i telefoni, c'erano quelli, no, non esistevano, io ce l'ho dall'88 il telefono, esistevano quelli a valigetta, quelli che si usavano tipo 24 ore. Già li ho conosciuti, ne costavano 2 milioni e passa. Ma di quelli non mi è mai interessato avere, perché era un ingombro, mi piaceva quello che aveva il mio ex principale, che ce l'aveva in macchina, solo in macchina, però ecco, l'antennino tipo VHF, quindi andava bene, però era in macchina, non era una cosa che dovevi tenere appresso. Gava, gava, ragazzi, vi devo lasciare che qua è pronta la cena, dai, ci è entrato 5 minuti tutto qua, a salutarvi, a vedere chi c'era, dai, ci sentiamo domani, se coincide. Va bene, ciao Dani, ci sentiamo, ciao alle prossime, Gianni, lo prof, riprendi. Ciao Daniele, ben sentito, buonasera, salutoni, e dai, buona carica. Ciao Daniele, mi assento un secondo, Già, adesso va bene la radio, poco fa stavo pompando, lì. Molto? No, centinaia. No, che però ti va in saturazione. Che ti va in saturazione, 100 watt, noi che siamo tanti. Ah, io Daniele, apprezzati anche tu. Ma Gianni, scusa, il blocco è... Allora, stavo dicendo, apprezzati anche tu. Quando sarà? Quando sarà già ci mettiamo a piombo. Ci mettiamo a piombo anche noi. Ci mettiamo a piombo anche noi. Certo, mi piacerebbe avere più che un veicolare, mi piacerebbe più avere un base CB. però insomma non disdegniamo i veicolari, dai, comunque anche a livello proprio estetico, a livello proprio di apparecchio preferirei avere un base, dai. Ma guarda, io come mi ha detto sempre un mio amico, mi ha detto: cacchio, tu a 10 anni hai avuto il Kenwood, adesso che li hai 40 e fruscia vuoi avere i veicolari? Ho detto no, è che i veicolari mi piacciono, utilizzarli anche come stazione base, gli ho detto, e quindi mi sto appassionando. È una cosa che sempre mi è piaciuta, il Pluto, quella generazione lì, 2009, 2009 e così via. E infatti adesso ne ho preso uno, ho detto: ascolta, fa una cosa, mi piace il doppio modulatore, mi piace questo, che stanno andando a farlo preparare, quando ci arrivano i pezzi, vediamo. Perché mi piace giocare magari, che ne so, su altri canali che utilizzavano, per dire, i camionisti, cose che magari con le HF un po' più professionali entri con la radio, è sempre bella amplificata, ma non con l'eco e col beep e col doppio modulatore e così via, capito? Eh beh, certo, ci sono quegli apparecchi lì rispetto a quelli di generazione, insomma, più recente, magari si prestano di più per essere customizzati, come si dice, elaborati, dai. Certo, certo, poi vabbè, c'è trovi un apparato che esce bene, il 27, lo avvini con un bel microfono, è un piccolo aiutino, ti adoperi quello e ciccio, l'importante è che eviti di prendere un po' di splatter da vicinato, quello, la radiosceglia per cosa la prendi? Solo per quello, per gli splatter, non per la modulazione o cosa, perché tanto riesce sempre ad avere un compromesso. Certo, certo. Beh, radio poi alla fine ce ne sono tante, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quindi la varietà è tanta. Sì, ma infatti poi devi valutare anche qualità, prezzo, vedere un pochino in base al budget che vuoi spendere, ti prendi una radio in base alle possibilità. A me piace tantissimo quelle radio americane che, cavolo, che costano un sacco di soldi, sono dei veicolari allucinanti, ne fanno forse 2-3 di nostri messi insieme, sembra quasi una stazione base, una stazione proprio, invece è un veicolare, pesa adesso peserà una decina di chili, bella massiccia, però guardi il prezzo e dici: cacchio, non conviene comprarti un HF Sirio al prezzo di questo. Ma non è la matessi cosa, come stavamo dicendo prima, cioè chiaramente se uno vuole determinate cose sceglie l'apparecchio che gli può dare quel tipo di prestazioni e quel tipo di soddisfazione, capito? Quindi è chiaro che insomma la scelta è bella per quello. È vero. Vediamo tempi migliori, magari, che adesso una puntatina anche in America ce la facciamo dare. La fregatura è che c'è la tassa doganale, la fregatura è quella. Se no, insomma, roba da comprare ce ne sarebbe tanta. Il problema è che, insomma, che c'è questo balzello da pagare ulteriore. Io ho preso della roba negli Stati Uniti, ho preso 3 pacchi batterie e un alimentatore professionale per una videocamera, e ho dovuto pagare la tassa di importazione, adesso non mi ricordo quanto, comunque il gioco ne valeva la candela e l'ho presa comunque. Ma è comincia la propagazione. Sì, lo so, però voglio dire, uno se mette in testa di averla una cosa, fa sacrificio, aspetta, ci gioca, credo che siano credo una 50 di euro di tassa, non so se magari qualcosa in più anche, dipende. Credo che dipenda dall'importo e anche dal peso, se non vado errando. poi chiaramente ci sono dei canali dove ci sono degli importatori che fanno viaggiare spesso i container e magari affidandosi a certe organizzazioni magari riesce a risparmiare qualcosa, capito? Però sei vincolato al fatto che insomma devi stare chiaramente a un certo tipo di norme, capito? Adesso mi ricordo c'era una piattaforma che faceva agevolazioni sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti, però chiaramente dovevi adeguarti ai loro tempi. Questi praticamente fanno viaggiare container dagli Stati Uniti verso l'Italia e l'Europa, e chiaramente prima di farlo partire un container lo devono riempire, e quindi il container parte quando è pieno e da lì riescono a smorzare i costi delle spese di dogana. Però bisogna vedere se ognuno di noi è disposto ad aspettare determinati tempi, capito, piuttosto che altri, quindi è un discorso di scelta poi. Ah beh, certo, magari se hai premura scegli l'altra strada, certo, giustamente, però se ti dicono che adesso non ce l'hai oggi ma ce l'hai nel prossimo mese, uno vabbè, non ha premura, aspetta e sa che fra un mese ce l'ha. Se risparmia, che adesso vuole 50 euro, perché no? Voglio dire, è sempre una cosa a sua scelta. Certo, certo, poi dipende sempre anche in proporzione alla sovrattassa. Faccio un esempio ipotetico: se quello che devo comprare costa 100 euro più, cosa ne so, fai 20 di spedizione, sono 120, e la tassa è di 10 euro, saliamo a 130, non ci sono problemi. Metti che, cosa ne so, la tassa arriva a 40 euro e già siamo al limite, uno si fa due conti, ok, vabbè, prendiamolo lo stesso, l'importante è che non superi una certa soglia, perché sennò poi diventa pesante. Quello senza ombra di dubbio, è logico, se il prodotto che stai acquistando ti costa 100 e la sovrattassa ti costa più della metà, allora dici cacchio, mi conviene pigliarlo. È vero. Entra, avanti. Sì, allora non fate tempo a spiegartelo poco fa perché ero lontano. Allora praticamente qua quando io attacco, se sono io di solito il power lo uso sempre al massimo nell'apparecchio, se attacco lo devo mettere a 5 perché sennò satura, perché c'ha più watt, capito, di entrata, c'ha 11 watt, quindi satura per questo. Vabbè, ma ce l'ha fissi questi watt, oppure che ne so, fa mezzo watt a 10 modulati. Sono regolabili i watt dall'apparecchio, c'ha la manopola e tu regoli i watt, capito? Tu puoi abbassarlo o alzarlo. Ah ecco, no, perché il mio per dire fa da un watt a 10-15 watt modulati, quindi qualsiasi cosa gli attacchi non va in distorsione, non va in saturazione, e per me non farlo sempre del 48, qualsiasi cosa li puoi attaccare lo spinge bene e la radio non si rovina, anzi forse si aumenta anche di modulazione. Al contrario dell'altro invece, che gli dati 2 watt, che in entrata addirittura aveva 2-3 watt, in uscita invece ne aveva 180 e lì andava in saturazione, 180, poi modulati, quando scaldava faceva anche 200. No, per me la fa ieri, ma il Midland è così, però partono da un watt e mezzo, normale che poi questo qui parte da 11 watt, gli dà 11 watt di colpo, capito? Questo qui, il Midland parte da un watt e mezzo e poi aumenta in modulazione, ma se fossero stati i watt dall'inizio, se fossero stati 10 watt, ti avrebbe saturato anche a te, fidati che è così. Sì, lo so, se ti ho detto che l'altro gemello, deve essere successo qualche cosa all'interno, si è crepato qualcosa, mi dava solo 2 watt, ecco perché io l'ho attaccato l'amplificatore, quindi aveva due porte di entrata nell'amplificatore e poi ne aveva 180-200 in uscita e andava in saturazione, mentre invece se gli attacco questo va benissimo, però non mi interessa utilizzare quel amplificatore grande con questo, capito? Sì, ma io ho già appurato come la studia, capito? Io nel garage ho praticamente la manopola come quella del volume che per regolare i bar. Se tu lo metti un po' più su del minimo, ti dà da 80 a 90 watt, non te li dà 100, però non satura, capito? Già glielo dico quando vuoi. Sì, già, ho capito, capito, capito, vabbè. No, vabbè. Bisogna fare delle prove per poter verificare se tutto va bene o meno, capito? Quindi adesso mi ha trovato Antonio, ha detto io voglio una svegliata, che mi serve che non andò a coricarsi questo apparato. Ecco perché gli ho dato anche l'amplificatore. In prova vediamo un po' come cosa esce fuori. Per fare la lineare? Sì, anche perché c'è inutile avere. Assolutamente, cioè sai benissimo che hai tanti watt, però di radio fa cagare, quindi preferibile metterne un po' meno e far andare bene la radio. Scusate un attimino, che ho un messaggio. Gianni, guarda che ogni tanto si sentono delle scariche, sembra che succeda qualcosa quando muovi il capo. A me stai dicendo? Scariche adesso? Sì, sì, sembra che succeda qualcosa quando si muove il capo. No, ma io capo non mi sto muovendo perché c'ho il microfono a capo. Senti, si sente uno scarico, si sente friggere qualcosa come di un falso contatto a me. Aspetta, così si sentono, guarda, adesso c'è il tasto fisso. Si sentono così. Adesso no. Ecco, schiaccio adesso, guarda. Come è iniziato il passaggio, sì. Già lo so, cioè, è entrata a polvere nel coso, nel tasto della portata e poi ci metto un po' di cerici e passa tutto. Non dipende da te, Gianni. No. No, è cosa di propagazione, come ogni tanto qualcuno aumenta e arriva forte, capito? E probabilmente quello lì. Però tu stai uscendo benissimo perché qua ti ascolto al 100%. Comunque buonasera a tutti. E l'altro mi è sembrato Daniele o Gianni, non mi ricordo. No, ero Profeta. E poi c'è anche Tino. K. Ciao Gianni Profeta, ben ascoltato. Ciao a Tino. Vabbè, Tino, ho capito che è uscito un attimino per sentire un messaggio. Gianni, comunque si sta andando bene, dai, dopo tu. Tu profe, beh, ancora lo sta facendo a te. Adesso no. Sì, ma la sua scarica nell'aria, non è roba mia. Che ha pagato, anda bene. Grazie Franco, mi hai rincurato. No, ma sono scariche, ci sono scariche atmosferiche che ci sono nell'aria, dai, non è roba tua. E purtroppo questo periodo arriva, lo sai, arriva la preparazione. Ciao a te. Guarda, se ho fatto questo appunto, cioè le ho sentite, poi che siano dovute alle scariche atmosferiche, al suo microfono, sta di fatto che io queste scariche le ho percepite, strana coincidenza, le ho percepite ogni volta che parlava lui, quindi comunque di scariche si tratta in sostanza. Guarda, se tu adesso stai attento, se quando io parlo adesso le fa. Sì, già, ma lo sto dicendo che tu non le hai sentite, scusa. No, ma infatti, no, io ci credo che l'abbia sentita, però magari non sono di quelle scariche elettrostatiche, roba del genere. Infatti è così. Avanti Tino, buonasera. Oh, buonasera, scusa, ero che stavo chiedendo la finestra e qua mi stavo passando di messaggi, vabbè, lasciamo fare adesso. Beh, niente, stavo dicendo stamane non vi siete divertiti voi, c'era una bella propagazione. No, io stamane non ho nemmeno acceso, fatti un conto. Sono andato a farmi la spesa, poi pulito la casa e buonanotte. Continuo, sono una settimana che faccio il muratore. ho visto, vabbè, ma cosa vuoi fare? Ci vuole fatto anche quello. Dai, è roba mia, no, non per altri, è roba mia. Tanto per risparmiare un po', anche se c'era la mano di un muratore, mio cognato. Ma adesso è attaccato, sì. Chi, io? Sei un po' saturo, boh. Ehi, Giaffrato, volevo dire, non è la tua radio naturale, eh? A me la pena si è mosso quando ho pulito questo qua, aspetta. Forse un po' alto, sì, c'ha ragione. Ok, così va meglio? Probabilmente quando ho pulito la radio ho toccato, si è toccato il coso, no, quel pomellino, è andato avanti. Mi intrufo io veloce. Personalmente se abbassi un altro pelino sei perfetto. Un altro pelino? Vediamo un po'. Ok, così va bene? Scusami, mi ha distratto il telefono, vai? Capo, dai, vieni a vedere se va bene così. Ok, per quanto mi riguarda va benissimo. Capo, dai, se va bene a te va bene a tutti allora. Va bene, adesso sentiamo gli altri. L'hai fatta quella prova con il 131? Sì, l'ho acceso, manca poco, guarda, lo posso anche accendere adesso, aspetta, poi riprendo quello lì, riprendi già. Sì, un attimo, sono cellulare. Eia, vabbè, io abituato a sentire il suono in alta fedeltà, deformazione professionale, quando sento qualcosa gracchiare mi dà fastidio. Signore. Cappatino? Sì, Cappa, questo è col 131. Ma adesso si è attaccato? Sì, adesso sono attaccato, no. Così sono attaccato. E sto scendo con due watt. Fai il passaggio attacca e attacca. Cappa, vedi? Allora, così sono attaccato. E così sono attaccato. Vabbè, io non ti do la segnale. Santiago, però per me la radio non ha cambiato, anzi forse ha migliorato quando è attaccato. Magari come è attaccato avrà migliorato un pochettino, ma è tutto merito del lineare però. Certo, però non distorce, non avrei saturazione, vedi? No, niente, infatti sono ricordando 70 watt, 70-80 modulati. Quindi già nello profetta hanno fatto cambiamento? Sì, vabbè, a parte il segnale di radio ha fatto un saltino in più, leggermente più amplificata, cioè la sento leggermente più forte, però no, non è pulita, dai. Quindi avevo ragione, hai visto? Capo, sì, ma non fece niente, solo che, qui sto usando l'MV4 con 1048 sto usando, e più c'ho il BQ131 che darà 100 watt più o meno, però mi sto dando solo 70-80 modulati. Meglio di niente, sì, quasi quasi lo lascio così perché se attacchi lineare va bene, però solo con il valvolare io non è che mi piace assai. Vabbè, dai, riprendi già nel doppio gruppo, dai che mi collego un altro nel frattempo. Io riprendo e ho visto l'orario, è già tardi, devo un po' fare giù il cane, anche se non ha giù cane perché sono stato lui, ma il dovere mi spetta. Dai, vi saluto tutti e vi auguro una buona domenica, buon continuo questo, ciao. Ciao Gianni, buona serata e buona passeggiata con l'amico quattro zampe. Per Franco, sì, praticamente adesso quando attacchi l'aiutino la radio sale di sale anche la radio oltre al segnale e praticamente il risultato è come se ci fosse un processore inserito, capito? Risulta compressa però non è in distorsione. Ciao Gianni, buona passeggiata col cane, ci ascoltiamo le prossime. Sì, è così, sicuramente è così. Solo che diciamo che probabilmente acquisterà di più quando metti non un valvolare, metti un transistor, dai, un transistorizzato. Dovrebbe lavorare meglio su un baracchino. Ma le valvole quanti anni di vita hanno? Più o meno quelle valvole lì sono nuove o sono insomma adattate? Guarda, ce l'ho 2-3 anni questo, ce l'ho, e chi me l'ha venduto mi ha detto, in effetti ci credo perché era nuova quando l'ho vista, mi ha detto che l'aveva appena cambiata, l'aveva la valvola, ha una valvola sola, cioè, e l'aveva appena cambiata. In effetti l'ho guardata ed era nuova, era la valvola. Poi se presentano tutte così non lo so, però mi aveva assicurato che l'aveva appena cambiata, neanche un mese l'aveva cambiata, e poi l'ha venduto. In questo caso a detta di gente insomma che lo fa per mestiere, le valvole migliori sono quelle militari, quindi se devi cambiare la valvola buscati qualche valvola militare. E da dove le trovi quelle lì? Quelle lì è difficile trovarle. Chi è che li vende queste cose? Già si trovano, le valvole già se ne trovano ancora, dai. Valvole già ce ne sono ancora. Ci sono molti amplificatori per chitarra, faccio un esempio adesso, no? Per amplificatori di chitarra che sono funzionano con le valvole si trovano. Che si trovano, minimo dubbio, perché su internet ci sono, le ho viste, ci sono tutti i tipi di valvole. Sto cercando, se riesco prendo un transistorizzato, meglio quello là, questo non mi piace tanto, non mi piace. A me a valvole devi stare lì a correggere, a fare, ma lui ha. È una tecnologia diversa, quindi ha bisogno un po' più di attenzione rispetto a un transistor. Quindi, però sono sicuro che insomma i suoi lati positivi già ce li ha, dai. Franco. Cappa, dimmi. Se te ne vuoi disfare dimmelo, che c'è un amico interessato, eh. No, guarda, venderlo, di la verità non lo voglio vendere, me lo tengo. Perché è il primo regalo che ho avuto. Ah, vabbè, anche io. No, vabbè, per la verità io l'ho comprato un prezzo e l'ho venduto lo stesso prezzo, perché non è che tengano, però ne ho comprato un altro migliore, quindi sì, ce l'ho avuto anche io come primo lineare, sinceramente. Uno poi guarda anche la qualità di ciò che compra, perlomeno io parlo sempre di me, perché io avevo con il 48 nella mia prima stazione, l'unica cosa che ho fatto fuori tra il microfono per apparato. No, io a valvole ho avuto solo questo, il primo che ho comprato, e non ho pagato neanche molto. C'è gente che mi dice che ho pagato tanto, 50 euro, ma per me non ho pagato tanto, perché se tu vuoi, secondo me, vai a comprare, lo paghi oltre 80-90 euro. No, secondo me è il suo prezzo, anch'io l'ho pagato così. Ed è nuovo, presenza nuova, senza grafica, senza niente, cosa vuoi? Bello, l'unica modifica che gli ha fatto quel ragazzo che ce l'aveva, che era uno di Cagliari, gli ha messo la lucettina per vedere quando era acceso e spento. No, va bene, questo locale qualche aiuto, lui ti fa più che bene, non è che lontananza, quei 70-80 watt, non lo so succedere al 100, io ce l'avevo, mi ricordo che da qua intorno a 110, non di più, ma vado così vagamente a ricordare. No, Tino, scusa Gianni, Tino, quando ho messo il link con la regolazione dei watt, dandogli un po' di watt più della radio, non 2 watt della radio, come il 48 che c'è 2 watt, dandogli 4-5 watt della radio, mi dà 100-110 quello lì, irregolare. Lo so, però vuoi che te ne vadano qualche cosa in spurie, vuoi che te ne vadano qualcosa in... insomma, effettivi io parlo, Ah, beh, effettivi, sì, c'hai ragione tu, probabilmente non te li dà. Però, perché una sera l'ho agganciato in banda laterale sulla quella frequenza 27555, lì dove ci sono tutti quelli, mi sembra che ci sono anche radiatori lì. Sono entrato, caspita, stava pompando, stava. Sì, non lo metto in dubbio, per carità. Già lo fa il suo lavoro. Però io, sinceramente, poi, per questione di gusti, mi sono trovato bene con questi transurizzati, quindi transurizzati. Questo per me, ho provato anche l'M200, andava benino, 80 watt li dava tranquillamente. Invece questo, anzi voglio chiedere anche a Gianni, tu, non so se hai lo strumento attaccato, col 747, importante bianca, quanto te ne dà? Aspetta un attimo. Ah, Gianni è andato a portare via il cane. Sì, Gianni è andato a portare il cane, è andato. C'è Gianni, l'altro Gianni, dai, abbiamo messo con il nuovo corso. Con profetta. Capo, mi devo ricordare del profetta. Lima Papa, lui profetta. Capo, già. Vabbè, no. A volte non è una mancanza di memoria, ma ogni tanto ci manca. Se no chiamo Gianni LP. Vedi, ci manca la piastra. Visto che ha detto al sonoro. Sì, ci sta bene, ci sta bene. È più, vabbè, ormai ti conoscono col tuo nome attivo, però sono qua che cercare di cambiare volendo. Il suo gusto è piacere. Guarda, la maggior parte delle persone che mi conoscono in verticale mi conoscono così. Molti addirittura mi chiamano per soprannome e non conoscono il nome. Cioè, quindi fatti un conto, quindi è una cosa che mi porta dietro da un sacco di tempo. E quindi è come che fosse il mio vero nome in particolare. È vero, ma anche a me molte volte. Anziché chiamarmi col nome mi chiamano così, però va bene, ci sta. Ma guarda, oggi io per dire faccio chiamare Franco di Sorso, vai, da Sorso, e alla fine ci sono solo io, ci sono qua a Sorso, ce ne sono altri però sono nascosti, non entrano. E il mio nominativo l'ho sempre avuto, non l'ho mai usato qua, lo usavo sempre quando facevo di ex queste cose qua, Attila, e basta, poi non l'ho più usato. E Attila eravamo in due, io e Tonino Attila di Usini. Capa, ma quindi attualmente continui a usarlo il nominativo? Sì, il nominativo se vado oltre, cioè in banda laterale, cosa così lo uso, ma qua non lo uso mai, non l'ho mai usato a dire la verità. E mentre Tonino ha sempre usato Attila. Capa, va bene. Capa, ti ricordi tu Tino? No, sinceramente no, devo essere sincero. Capa, a Tonino non l'hai mai conosciuto Tonino Attila? Di persona no. Non dico di persona, di frequenza. Sì, ma non ricordavo che era dalle tue parti, dove era, un altro paese? No, Tonino di Usini, Tonino Attila. Infatti no. Lì a Sorso, che c'era, vabbè, entrava Vannino, entrava Braccio di Ferro, Buonanima, non mi ricordo altri, ma sono un po' così fuori con la memoria. Se mi dici mi ricordo. Guarda, a Sorso c'erano più baracchini che case. Vabbè, però noi magari loro parlavano in un determinato canale e noi, per dire, io mi ricordo quando eravamo o sul 20 o sul 38, e poi vabbè, un classico canale 5 per chiamata, per poi spostarti sul 10 e così via. Infatti. Noi da qua la notte stavamo, a volte facevamo notte anche, facevamo io, povero Pietro, Braccio di Ferro, e Qualche altro da Sassari c'era, però sentiva poco. Con la Corsica, di notte, in Corsica arrivava, qua la Corsica arrivava, una bomba arrivava, in diretta. Beh sì, poi, dove abiti tu, guarda. Ma che, noi la prendevamo in diretta, io e Pietro la prendevamo in diretta, la Corsica. Tutte le sere, tutte le notti c'erano queste due persone dalla Corsica, da Iaccio, ma micidiale era. Avanti Gianni. Sì. Adesso mentre stavi parlando stavo cercando di ricordare qualcuno qua vecchio di Sassari. Già mi salteranno in mente, dai. Cappa. Guarda, noi che faceva casino, era più di tutto a Sassari a quella di giorno, Antonio, che non mi ricordo il nominativo, che faceva il tassista lo stesso, che tuttora mi sa che fa il tassista se non è andato in pensione, e qualcun altro tipo Claudio e altri di gente potente, dai, che c'è una linea di grossi. Allora, c'era Acqua di Ciorno, nonché Alessandro, Antonio Tervinti, che anche lui era tassinaro, il mitico Paoletto, che quando parlava oscurava la trasmissione, perché tutti la passavano, però effettivamente aveva un buon segnale anche lui, e quindi ti tappava la recezione. E poi vabbè, se parliamo dei grandi, c'era Claudio, c'era 131, del Nuovo Sole, insomma, c'era la Genga, c'era, mi ricordo la voce, c'era Italo, c'era Torre Sagittario, Gabino Centano, e veniva. Io mi ricordo uno, ti parlo di un sacco di anni fa, si faceva chiamare Papa Francesco, e poi un certo Tonino Kawasaki. Lavoravano insieme, mi ricordo. Aspetta, il padre Francesco. Ma c'era la casa, che non so se abita ancora lì, dove c'era la cantoniera, oppure se abita ancora un'altra parte. Italo è il mio compare, mio. Il compare di chi? Italo, il mio compare, il compare di Fede. Oh! Con Italo ci conosciamo di persona, ci conosciamo. Ci trovavamo sempre, lui faceva il cantoniere. Infatti adesso è in pensione. Sta raccogliendo fiore che ha lavorato. E poi Piero lo stesso lo conosci, sì? Sì, tutti e due li conosco, tutti e due, lavoravano insieme, erano in coppia quando li ho conosciuti. Esatto, Piero poi è andato qualche anno prima in pensione, mi sembra un anno e mezzo prima di Italo. Ma io allora, diciamo che la fissa del baracchino nel 87-88 è partita da lui, perché io mi frequentavo con lui e da lì lui ce l'aveva in macchina, poi ce l'aveva in casa, aveva 140 Italo. È da lì che mi ha preso la fissa del baracchino, e poi il suo addirittura l'ho venduto io all'Alghero. Capo, sì, caspita, poi allora due li ho conosciuti proprio, poi di Paoletto non l'ho mai conosciuto di persona, non ho mai avuto la voglia di conoscerlo perché non mi interessava. Quando si incantava era al microfono, lui con la portante in un canale e noi da un'altra parte. Sì, mi ricordo, no vabbè, quando entrava, quando c'ho io, dicevo, vabbè, se non ti sei dito che era la tua, te ne butto giù la porta. No, già facciamo bravo. E allora gli facevamo fare passaggi corti anche a lui a parlare. Quando si dimenticava di fare passaggi corti, allora insomma, con l'azione, io spostiamoci da là. Cazzo. Ma Italo sempre lì abita? No, Italo abita nella sua prima casa adesso, non so se si è appunto, quindi si è spostato e abita dalla madre. Cazzo, guarda, quando lo vedi salutamelo. Salutamelo, dici qualcosa di so, se già ho capisci tanto già. che ci conoscevamo tanti anni. Scusate, mi è sembrato di sentire qualcun altro. Franco, tu sei? Cappa, no, mi stavo ascoltando quando hai detto padre Francesco, che ho corretto perché tu hai detto papa Francesco. Buonasera a tutti. Ah, buonasera, padre Francesco. E entrava e diceva baciatemi il cordiccione. Il cordone, no, il cordiccione. E vabbè, c'è il cordiccione, lo stesso. Ciao, comunque. Ben ascoltato. Ciao ragazzi, mi sono appena rientrato, rientro da un matrimonio di Aurune, quindi vi stavo ascoltando mentre vi cambiavo. Bene, bene, sì, non mancherò, dai, tanto con compare ci sentiamo spesso e quindi intanto ci vediamo, no? Non mancherò, vi do i tuoi saluti. Con Piero siamo vicini di casa, non ci vediamo spesso, ci incrociamo in macchina, ma non è che ci parliamo... c'è poco tempo, ci incrociamo e basta, ci salutiamo al volo. Capo, dai, se ti capita salutami anche a lui, se ti capita, se no pazienza. Ciao Franco, buonasera. Ciao Franco, vedo che tu parlavi con la Corsica, io mi ricordo Canarino che arrivava bene qua, cioè qua, quando abitavo in campagna. Capo, sì, è vero, arrivava forte. Poi io ero, cioè, non ero proprio sul mare, ma era un po' aperto verso quella parte lì e... loro potevano partire tranquillamente con la macchina dalla Corsica, io ci vivo fino a Sassari, fino a casa. Capo, molta gente da Sassari ci dicevano, a me, a Pietro, a povero Pietro, ci dicevano, come è fatto a sentire da lì che noi non li ascoltiamo per niente? Ha detto, è tutto diverso, perché voi siete la zona interna, noi siamo all'esterno, noi siamo sul mare. Capo, il mare si propaga molto meglio. Avanti Gianni, buonasera. Ciao Franco, buonasera. Mi ha detto che eri di matrimonio. Com'è andata? Tutto bene? Sono rientrato in pelo, va. Anche perché domani ne ho un altro, quindi mi sono dovuto contenere un po'. Cappa, e quindi praticamente sì, bisogna gestirsi, dai, perché sennò cazzo, se ti sciopera prima, poi il resto viene in salita. Allora, bisogna centellinarsi, poi lì ci danno dentro, ma la sorte. Lì c'era quel rotolo, quel neppente di. Come si chiama? Di Oliena. Già conosco un po' l'ambiente, una volta anni fa ho messo musica al matrimonio di un carissimo amico, lui di Orani, però ha sposato a aiutatemi, c'è il lago con i due agriturismi, uno da una parte e uno dall'altra, aiutatemi ragazzi. Usa? Kappa, sì. Adesso non mi ricordo perfettamente il nome del locale. E niente, mi ha detto, insomma, voleva assolutamente che io fossi il maestro di cerimonia, cioè non cerimonia nuziale, cerimonia nel senso quello che girava le carte. E niente, infatti sono andato contentissimo, mi hanno fatto trovare la stanza per dormire perché era inimmaginabile tornare a Sassari la sera e mi sono divertito tantissimo. Poi vabbè, chiaramente sai la diffidenza iniziale, poi già mi sono fatto volere ben subito e praticamente la console era piena di bicchieri di birra da una bacchia all'altra, a giumai mi ripone proprio sui giradischi. Uno non sai che uno è il Taloro, non so se eri lì. No, è l'opposto. No, proprio quello che c'è, quello di Busan proprio. Bello, un bel fine settimana, mi sono divertito tantissimo e anche gli invitati mi sembra che anche loro sono divertiti parecchio. Qua addirittura lì abbiamo mangiato su Golovone stasera, c'era ospite Piero Pelù e stasera andava a Oliena, quindi perché c'era festa proprio della cantina aperta di Nepente. Avanti Franco. Capo, vai. Stavo aspettando passare in macchina perché dovevo andare, mi stavo chiamando per andare a mangiare. Ce ne ascoltiamo, dai, magari più tardi se ci siete ci facciamo un'altra chiacchierata. Scusa Fra se è entrato un po' di tempo e me ne sto andando via. Ciao Franco, ciao Gianni e ciao Tino, alle prossimine oppure a dopo se ci siete. Riprendi Tino e fai girare. Va bene, dai. buona carica, buon tutto, buon fine settimana se non ci sentiamo. Se coincide già siamo in radio anche dopo, fra, se ne abbiamo voglia due chiacchiere, prima di andare a Nanna, già lo sai com'è. Come si sviluppa l'ambaradano. Ok, dai, avanti Gianni, per i saluti a Franco. Ok Fra, dai, buon proseguimento, ci si aggiorna, dai, alle prossime o quanto prima. Ciao Franco, anche da parte mia, anche se ci siamo sentiti per poco, però meglio di niente sempre, dai, a dopo se coincide. Io mangiare per adesso, fino a domani non ne cerco sicuramente, avanti Tino. Non è giusto, almeno un pacchettino però ce lo devi portare, però, perché insomma passiamo così agli sgoccioli. E addirittura, ora ma ce n'era lì, vabbè, non è la prima volta che mangio lì, se non sbaglio, l'anno scorso ne ho fatto uno, era gemellato tra una famiglia siciliana e una di Nuoro, roba di 500-600 invitati, no? Non ti dico cosa era, però questa volta mi sembra che siamo stati un po' meglio, eravamo sui 300-400, paga zente per questa volta. Eh sì, perché poi succede così, che quando c'è in tanti, la quantità magari c'è, ma la qualità scarseggia, nel senso che vai in fretta, in furia, vai a servire il tavolo, brava, una cosa e l'altra, quindi quando si è in pochi, calmi, si mangia tranquillamente, la cosa c'è in abbondanza, la qualità idem, capito? Vabbè. L'importante è averti passato una bella serata e in ottima compagnia. No, quello sicuro, poi gente, veramente gente in gamba, ci vediamo poco purtroppo perché abitiamo un po' lontani, sono a Orune, noi siamo qua a Sase, però è veramente gente in gamba. Va bene, dai, avanti Gianni. Datemi un minuto, poi rientro. Dammi solo un minuto. Pippando? Ma si incanta la portante. No, adesso è uscito, poi è mollato, si incanta la portante. E il microfono, se lo tira un po' in fuori rimane così, la portante inserita, dai, fine in automatico va. Già va bene. Cosa stai utilizzando? È quel microfono americano, lo Shure, vecchio. Ah, sì. Con cosa? Con l'apparato? Adesso è Super Galaxy. Ma esce bene. E l'abbiamo un po' smanettato, un po' aumentato di watt, dai, e un po' di radio, di modulazione, ma poca roba di modulazione, non siamo usciti molto ad aumentarla, però il trimmer sembra che sia al massimo, quasi al massimo. Ma guarda, io ne ho una in riparazione, infatti ne ho mandato 3-4 video, che era super incasinata, ma credimi, forse ce l'ho già fatto anche dentro. Chi ce l'ha data per Perfetti ha dichiarato che l'aveva spenta così, è abbandonata lì e la usava, si poteva usare come Perfetti, però ho detto prima di buttarla, se si riesce la rimettiamo in pezzetto, vediamo un pochino se si riesce a fare qualcosa, se ne vale la pena, giustamente. Mi ha detto che c'erano un po' di complicazioni, però sembra che pian piano sta arrivando al culmine, all'apice del lavoro. Adesso aspettiamo, perché slittava di frequenza, se ne erano per i fatti suoi, è il proprio di un brutto, quindi non è che, però sai, a me è una radio che mi piace, se riesco la faccio mettere a posto e poi vediamo di lasciarla così, oppure magari sai, mettere sotto gli ultimi duratori e quant'altro, giusto per catteggiare un 27, perché ne vorrei una per gioco e una magari per così questione locale e l'altra magari per frequenze più particolari. Penso che sia simile a questo, il tutto. Sì, teoricamente, allora io sinceramente non l'ho mai visto all'interno, l'ho sempre visto esternamente, ne ho visto 3-4 anche lì dove lavoro io, però non li ho mai aperti, non mi interessa aprirli per vedere cosa c'è. Mi hanno detto che c'è praticamente la stessa cosa del tutto con un trasformatore di corrente a fianco e niente, più che altro cassa, ma non è piena questa cassa, ecco. Beh, altro ce n'è all'interno per metterci quello che vuoi tu, dai, per trasformarlo, scheda cota, cose varie, però escono abbastanza bene. No, ho notato anch'io, qualche volta ho visto con qualche spostamento di frequenza al freddo quando lo accendi e poi si stabilizza, non so neanche io cosa sia. E poi questo sarebbe anche da controllare in FM, perché non è proprio centrato. E ci vorrebbe una messa a punto qui, come le macchine. È vero, è vero. No, ma tu pensa che io l'ho accesa, traccio, vediamo, almeno si accende, no? Quindi ho collegato l'antenna, leggo la frequenza, che mi sembra strano, però allora ho preso il grande e ho iniziato a cercare, era spostato lì un bel po', partiva da 22 MHz addirittura. Ma erano reali i MHz? Lascia perdere. Cioè tu realmente dove stavi trasmettendo non lo sai? Allora, uno era 22 e l'altro era 25, poi l'altro rimaneva 25 ed era 24, poi 23, poi 21, poi 30, era la cacca di cane. Andavi a cercare, perché magari era fermarmi, no? Poi la schiacciavi nuovamente e non era più dove avevi lasciato. E sai qual è il problema? Beh, io assolutamente no, l'ho dato a chi è il dovere, per carità, io non ci metto mano perché non saprei neanche da dove iniziare. Posso smontartelo in mille picchi, ecco. Sì, a smontarlo è facile, a piazzarlo dopo. Allora io su queste cose qua, poi su queste cose piccole sono negato, non ho pazienza, non ho... tu mi dai una macchina, io te la smonto, per dire, e non è il mio mestiere, te la smonto e te la ripiazzo, però in queste cose piccole no. Eccomi. Capo, ben rientrato. Sì, non anch'io, cioè, bisogna riconoscere i propri limiti, dai. Giusto qualche regolazione, basta, poi il resto ci vuole un tecnico, dai. Avanti Gianni. Ehi, setup, sì, setting, o come ti vuoi dire, Giamà. Comunque, già ho capito più o meno di cosa state parlando. Vabbè, ieri stavo leggendo il link che mi ha mandato Marco Condor sulla Ringo, mi stavo facendo un po' una cultura. Adesso forse in questi giorni facciamo un esperimento, proviamo a piazzare la Ringo al posto della Boomerang per vedere se c'è questa grande differenza. Vediamo cosa succede, dai. Dovrei, come faccio a sapere la differenza? Qualcuno che appiccia più lontano magari, perché tu sei già un segnale alto quando sei quasi 9 più 30. Ti dovrei attenuare, ma ricordarmi come, in che posizione ha messo l'attenuatore e poi fare la verifica con la tua antenna. Sì, vabbè, al limite già ho visto che sta entrando anche abbastanza spesso vicino alla Porto Torres, quindi al limite quando facciamo qualche prova al limite lo chiediamo a lui. Vabbè, al limite ti posso attenuare io, tanto qua arrivi 9:10, se attino ti posso portare a 7:05, 7:00, dipende. Però bisogna ricordarsi poi come lasciamo, come si dice, le grinda. Vabbè, io vado con la fino a 8 ore e poi vediamo. Tanto se la prova si fa, prendo un riferimento, giustamente, poi. Mi devi dire però quando cambi l'antenna, prima di cambiare l'antenna. Vabbè, ancora dobbiamo metterci d'accordo, adesso vediamo se riusciamo a fare questa cosa in questi giorni. Niente, più che altro, vabbè, stavo leggendo nel forum che più che smanettare su quella bobina, su quello stile a forma di bobina, bisogna smanettare sulla lunghezza di quell'antenna, sullo stilo, perché in molti ci hanno fatto un sacco di esperimenti e hanno visto praticamente che facendo variazioni su quella bobina, praticamente quella bobina lavorava troppo di fino, mentre se si vuole accordarla bene bisogna lavorare sullo stilo principale. E quindi a detta di molti, di quasi tutta la maggioranza, insomma, diciamo, l'altezza ideale varia dai 4,20 m ai 4,30 m, perché sulla 27, perché poi se l'antenna la si accorda in maniera più lunga, praticamente non va. Allora, qua sì, 9.10 con picchi positivi a 9.12, mentre invece 7 attino fai Santiago 5.5 con picchi positivi a 6. Quindi se ti vuoi scrivere queste cose qua ti tiene a riferimento la portata di questa antenna, poi quando hai l'altra ti do l'altro rapporto. Più o meno è il segnale con cui sto arrivando giù da Eugenio a Porto Torres. Io non sono a Porto Torres, sono diciamo neanche a metà strada, diciamo. Sono all'uscita della Peroce, poi un 3-4 km dopo la Peroce, in periferia, quindi. Mi sono spiegato male io. Dico, mi viene molto più facile tenere la memoria il 5.5-6 perché è più o meno è il segnale con cui attualmente con questa antenna arrivo a Eugenio, capito? Quello che volevo dire. Ecco, se tu fai attenuato 5.5 però con picchi positivi a 6, non vai oltre 6, quindi è un segnale preciso questo. Mentre invece ascoltandoti con l'altra radio che stavo utilizzando poc'anzi, eri 9.10, quindi è molto generosa l'altra, cioè quasi 9.20, provo a dire, no, 9.10. L'altra è un pochino più generosa e poi non ti posso attenuare. Io invece il mio attenuatore non è a... il tuo è a scatto sicuramente, così è a interruttore? Sì, è interruttore. Dovrebbe dare 20 dB adesso, non ci ho fatto caso. Invece il mio è, come dice, è a cursore, cioè a potenziometro, quindi lo posso portare anche a zero se voglio. Diciamo che avete quasi lo stesso segnale, non è che forse tu appena un pochino più forte. Io purtroppo facevo questa antenna, ce l'ho a livello di finestra, dai. Chissà, secondo me riusciamo a metterla sul tetto, almeno riuscirò a fare qualche DX anch'io. Guarda, se a picchi positivi non arrivi a 9.15, 9.13 ti do, è proprio preciso. Franco, magari tu sei appena, anche se hai l'antenna messa affacciata, magari sei un po' più avvantaggiato perché quella radio magari spinge un po' più di questa. Sì, però secondo me tu vai molto più forte la radio di lui, però il segnale siete uguale, tanto è vero che se provate a parlare magari non capisco né uno né l'altro. Provate a fare una sovrapposizione. Proviamo a parlare, dai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Assolutamente, come ho detto io, non si capisce né uno né l'altro. Ehi, accappa. No, comunque Gianni ha misurato parecchio, eh. Lui c'è una posizione fantastica, Gianni è aperto, davvero, una bella posizione. Dai, ritorno con questa che magari è più serena, più tranquilla. Avanti già. Dico che questa ho visto che sta tirando fuori 4 watt, quindi ha voglia, ce n'è per i porci. Cioè, nel senso che i 4 watt li sto sfruttando tutti. No, questa sono almeno 20 se non sbaglio, Allora vedi, con questa qua Gianni mi arriva 9.10 spaccato, tu invece mi arrivi 9.15. Guarda, hai cambiato radio? Sì, infatti non te ne sei accorto. No, mi arrivi sempre bene, forse leggermente più basso questo segnale. Non lo so, io poc'anzi ho utilizzato il 440. Forse spinge un po' meno questo, tu lo sai quanti watt da uno e l'altro? Sì, questo va dai 6 al massimo 8 watt modulati, l'altro da... l'ho appena acceso, quindi avrà una decina di watt, però spinge molto di più, quando si mette a lavorare tocca anche i 100. Non si sente, ma devo guardare lo smitter, sennò anche il microfono sembra lo stesso. Sono contento allora, perché questa radio ha preso le sembianze dell'altra. Va bene. No, va benissimo. Per te Gianni? Sì, si assomigliano parecchio. Mentre invece questa, vedi, tra questo è differente la radio, Ma qui devi abbassare per me. Infatti, questa è molto amplificata, poi spinge anche un pochino di più. Allora, troppo forte, diventa anche incomprensibile. Il segnale si vede anche che è più forte questo, però la radio preferisco l'altra, vabbè. Sì, no, ma infatti quella lì la utilizzo quando c'è silenzio anche in casa, c'è televisione accesa e quant'altro, ventole e così via. L'altra è un pochino più spinta, ecco. Nonostante tutto è una radio totalmente differente. È un baracchino o una radio proprio? No, è un baracchino, Ti faccio sentire un baracchino che però ha un'altra frequenza. Aspetta un attimino. Hola. Per l'altra forse è troppo amplificata anche questa. Però questa radio un po' tende a strappare un po', ed è più basso il segnale. Oh, tende a strappare. Abbassiamo un pochino l'amplificazione e così invece è migliorato. Sì, è migliorato. Anche il watt ho abbassato, quindi perché qui stiano la regolazione dei watt. Ora vedi un po'. Sì, adesso si è risalito di segnale, però la radio è un po' strozzata, non è chiara. Questo dipende dalla missione, vedi un po' se è cambiato qualcosa, e dalla vettura del Michigan anche. No, preferisco le altre, dai, sei sempre un po' strappata la radio. Non so se Gianni ti ascolta come me. Questo sicuramente è Lincoln, vero? Sì. Lo riconosco al volo quando l'attacchi. Guarda, ti dirò la verità, mi piace. Non me ne voglio disfare, non mi voglio convincere voglio convincermi che se riesco a mettere un altro microfono magari vada meglio. Mi ricordo, questo è quello che stavamo facendo le prove anche l'altra volta, vero? Che è sempre difficile trovare una apparatura ideale. No, vabbè, che è difficile perché se tu mi ascolti con quel tipo di radio, magari per te va bene, non va bene a quell'altro che magari è più lontano, che ha un'altra tipologia di radio. Magari disturba a Gianni perché è troppo gracchiante e così via. Questa invece è una radio base vintage che è abbinato con un più 4 magari. Mi hanno detto che va bene come colorazione, sto utilizzando questa per fare questo vocale. L'altro magari lo utilizzo in banda, spinge di più, magari più comprensibile, non so. Cavolo, no, io ti ascolto bene, con questa ti ascolto meglio. Allora, utilizziamo questa, anche perché fa troppi anni ferma. Si sente un po' di effetto camera, non so come sia l'ambiente che ti circonda. Perché c'è la televisione a 2 metri, 3 metri, quindi io ho la sala comunicante con la cucina, siccome sono con la televisione raccoglie anche la mondetta degli amici. Anche grazie, qualcosa al vento, si sente qualcosa che gira, un rumore di fondo. Ah sì, ho messo una ventolina di computer sopra l'apparato per raffreddare un pochino perché era caldo, ma così giusto per spizio. Sì, la sento anche io, perché adesso sono vero. Capa, era lei. Sì, l'ho messa giusto per raffreddare un pochino perché ti spiego, gli ho messo un po' di quel spray per i contatti dell'ossido che male non le fa, no? E quindi lascia un determinato odore un po' particolare che finché non si asciuga del tutto non è gradevole, quindi adesso metto una ventolina così almeno prima si asciuga è meglio. Ho sentito un bip, sì, no, anch'io il valvolare l'ho tutto spruzzato con quello spray dopo l'ho spolverato e ancora fa quell'odore lì quando scalda, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti break, se no riprende Gianni. Sì, buongiorno. Ciao Lissi, mi riscucciti tutti, Meno male che non abbaglia, Allora, se abbagliassi guai. Aspettate che non morda. Salutoni a tutti comunque, Gianni, Franco e quel pazzo di Tino. Stanno guardando la stessa cosa, anzi stanno guardando la stessa cosa. Sì. Io? Lei e mia moglie. Sì, senz'altro sì. Questo mi chiamerà mia figura, la televisione di istante. già se dove la camera da letto. Quindi figurati, c'è il volume che è al minimo. Tu figurati se avessi abitato al centro storico, avessi sentito parlare di sopra facendo ah, ancora! Scusa un attimino, qualcosa per disintossicarsi non ce l'hai? Ho capito, se c'ho qualcosa per disintossicarsi? No, non c'è niente, no. Qua le camere sono così, non posso farci nulla io. Si sente tutto di qui. Anche qua. Adesso mi costruisco la casa sua e me la vado su. Sì, ho che ti rivedo adesso qua, però fate sentire i rumori. Capito? Non puoi farci nulla. Così tanto si sente il televisore, non penso. Ma per me sì, soprattutto la sentivo per un motivo lì. Va bene ragazzi, dai, ne approfitto da quel mic, rilancio il mic a Franco, aspetto il saluto e poi al limite, se coincide, a più tardi, dai. Vi saluto tutti, un abbraccio a tutti. Capo, grazie per il mic, una buona serata, anche a te, se coincide ci risentiamo. Saluto nel cuore, avanti Gianni. Ehi, ciao Tino, a presto, dai. Ciao Tonello. Niente, vabbè. Chi ne sono? 21 e 23 o 28, boh, adesso. Già CB il gioco. Ah no, 23, ok. Ho cancellato un'icona, non mi metto cosa vera, ma porca miseria. Cosa hai cancellato un'icona? Sì, dal cellulare, l'ho toccata, l'ho rimossa e non mi ricordo che icona avevo lì in quel momento, boh. Ah, figurati, no. Ne ho due cellulari, sono che è un casino. Un'altra volta ho toccato il pulsante e in pratica mi tocca di fare tutti i parametri nuovi. Perché l'account che è stato messo è quello di mio nipote, capito? Non c'è il mio, quindi ogni volta devo stare a farlarmi. Adesso bisogna che lo porto da ricco e me lo faccio sistemare. Perché in pratica i dati di un telefonino vanno trasferiti nell'altro, capito? Solo così funziona questo tipo di telefono. Quello che ho io, l'LG, come si chiama l'altro? Adesso mi viene mettendo, ma comunque. In pratica per scaricare il programma devo avere il wifi qua a casa e passare i dati di uno all'altro. Non lo so, LG no. Tempo dietro ho avuto quei videofonie che dava la 3 e basta, della LG, poi altro non posso aiutarti. Avanti Gianni, io devo fare un attimino una telefonata. Vabbè, ci sono diversi software in commercio, però la versione gratuita fa poca roba, Antonè. Per cui bisogna buscare la versione quella pro, ci sono diversi software per fare praticamente quello che serve a te, praticamente fare il backup di un telefono per spostarlo da un altro e niente, bisogna riuscire a trovare questi programmi nella versione pro e allora probabilmente riesci a spostare tutto, perché quelli nella versione gratuita, quella lì, quella free, praticamente puoi fare solo pochissime operazioni proprio perché è gratuita, capito? E infatti lo fai così. Adesso l'ho aperto da un amico, l'ho porto, c'è cioè wifi, lui mi fa scaricare, siccome ho comprato un telefono nuovo l'altro giorno, 56 euro, e quindi per impostarlo devo scaricare il programma di uno nell'altro. Adesso non c'è wifi, il segnale wifi non posso farlo, capito? È un bel casino. Quindi adesso vabbè, però non è che mi interessi più tanto, perché il telefono già ne ho, grazie a Dio. Raggio 4. Sì. Sembra semplice, ma se non stai attento, secondo che operazione fai, cazzo, mandi a puttana il telefono. E già me lo faccio fare da un amico che il computer già si arrangia, capito? Lo faccio fare da lui, per quello. Passo le impostazioni del Samsung direttamente nell'alto, e così vediamo un pochettino. Sì, sì, l'importante è che poi alla fine che, cioè, se, che tutti e due i sistemi, che due telefoni si viaggiano sul sistema Android, per quello già non è un problema, perché se, se poi c'è qualche altro sistema operativo è un casino, capito? Quindi come, come Windows e Linux, no? Capito? Se i due telefoni sono tutti e due Android già dovrebbe essere abbastanza facile l'operazione. No, no, già sono entrambi Android, meno male. Avevo quello, capito. Solo che il casino adesso è, quando compri il telefono devi fare per forza così, prima invece ti postavi le cose tu per dire mano a mano e ci avevi tutto, e invece adesso bisogna fare tutto questo passaggio strano. Ci sono molte più applicazioni, deve avere l'account per fare il backup delle applicazioni, è un casino, un casino. Guarda, io c'ho un telefono che gira su Windows, c'ho il Windows Phone, però praticamente adesso da quest'anno praticamente non si troverà più nessun aggiornamento per il telefono, e quindi piano piano spariranno tutte le applicazioni, però adesso questo c'ho e questo mi tengo, e quindi non ci posso fare niente. Io c'ho il doppia Lumia ancora, figurati, Windows 7, e non la faccio l'aggiornamento su Windows 10, no? Perché qualche gente ha fatto l'aggiornamento Windows 10, boh, si è trovato il telefono incasinato, ci ha dovuto buttare, capito, che non ce la faceva reggere. Avevo lasciato Windows 7, l'ho lasciato, funzionava benissimo come Nokia Lumia, è un demonio quel telefono, veramente bello, semplice, semplice da usare, senza fare questi passaggi da un telefono all'altro, me ne posso io tranquillamente, eccetera, eccetera, capito? Ci mettevo l'account e stavo andando. Perché adesso questi telefoni che sono usciti nuovi, per carità. E io ho la versione, il mio è un 535, c'ho la versione 8.1 sul telefonino. E niente, siccome praticamente ne avevo un altro uguale che però ha avuto un problema, e quindi ne ho preso un altro su eBay come pezzi di ricambio, e praticamente da due ne ho fatto uno. Quello che avevo prima, c'avevo Windows 10 installato, poi ho smontato tutto e ho preso i pezzi buoni, praticamente mi ho fatto un telefono, e adesso è perfettamente funzionante, funziona tutto grande. Meglio così. Io so dei buoni telefoni, quindi grazie a Dio ho preso un coso, un Mediacom, capito, quello che fa i tablet e roba del genere, quel telefonino di 56 euro dello Spin, è bello, è uguale, identico, preciso alla, come ti posso dire, al Samsung quello bianco. Sì, conosco la marca Mediacom, un'amica aveva il tablet bianco della Mediacom. Ma perché lo Spin vende anche cellulare adesso? Io ho voglia, ne ho due tipi, ne ho uno più piccolo e uno più grande. Costava 65, ma ne costava 50. Ah, ok, ma tutti i punti dello Spin li stanno vendendo o qualche market in particolare? No, tutti i punti dello Spin, io sono in quello qua vicino a casa mia, in via Cavo Felice, l'ho preso lì, capito, visto che c'era, e mi ha detto, dice, abbiamo uno più grande, non vuole, dammi quello, gli ho detto. Infatti me l'ha dato, 56 euro, costava 65, e mi dice, guarda che c'è lo sconto, te lo lascio 56. E ho detto, vabbè, lo prendo al volo, io. Non lo sapevo. Comunque è un buon prezzo. Un buon prezzo. Quanti pollici è quel telefono, lo schermo? Antonio, quanti pollici è lo schermo, il display del telefono? Franco, rientrato, sì? Se siete un tibacchino da sopra, da quello quasi, stavo dicendo, Antonio, quanti pollici è il display del telefono? Non lo so, perché non ho letto le istruzioni ancora. Capito, l'ho solamente guardato, se scendeva e basta, più che altro. Adesso domani lo controllo e ti so dire quanti pollici è. E domani ti faccio sapere. Tanto, se te lo vuoi prendere, mi sembra ce ne sono altri due. Ho fatto che te lo spi, te lo fai dare. Ti dico il modello, capito, questo te lo prendi. No, no, vabbè, adesso è giusto per curiosità, no? Per il momento già funziona bene quello che c'ho, dai, no? Era giusto così per, insomma, giusto per saperlo, mi. Ah, vabbè, allora, come vuoi tu. Capito? Io lo peso più che altro per la mia 25, perché ogni volta arriva nelle forze, si mette con i videogiochi, c'è il senso che già lo sai, di fatto che c'ha. Quando li metti i videogiochi, la batteria parte. E dopo poco, in pratica, non fa più quel tipo di batteria. Allora ho deciso di prendere quello lì, il Mediacom. Almeno non ci sono videogiochi, non c'è niente e non lo toccano. Ho capito. Vabbè, hai fatto bene, dai. Vediamo se Franco è rientrato. Franco? Sì, capo, ho chiuso. Di cosa state parlando? Io vi ho perso, ho dovuto abbassare un po' il volume. Telefoni. Anche a voi? No, mi sto dicendo Antonio che ha beccato un'occasione, un telefono a buon prezzo, una promozione all'Eurospin. Niente, mi stava dicendo questo. E che telefono era? O che telefono è? Mediacom, fa... Vabbè, io avevo un'amica che aveva il tablet di quella marca lì. Sì, l'ho già sentita, ce l'ho vista. Non l'ho mai trattata, però la conosco. Più o meno siamo... Come telefono siamo più o meno della, sulla stessa fascia del tipo Wiko, Alcatel, entry level, mi, capito, come cellulare. Ma un buon telefonino senza spendere una cifra, c'è il Pocophone, l'F1, che c'è un processore che è una bomba, è uscito l'F2 se non sbaglio. Vabbè, ogni guida esce sempre di così nuovi, se stai a prestare certe cose non esce più. Io te l'ho detto, c'ho un Microsoft Lumia 535 che mi sono risistemato. Da due ne ho fatto uno perché il primo aveva dei problemi alla scheda, praticamente aveva difficoltà a agganciarsi alla rete telefonica. Poi ho scoperto che aveva la schedina era difettosa, quindi ne ho comprato uno su eBay che era funzionante, però aveva problemi aveva il vetro danneggiato, e praticamente da due ne ho fatto uno. Sì, va bene. No, io adesso ne sto usando solo un Motorola che ce l'ho già, c'è il quarto anno questo, gli ho cambiato la batteria che non ha cambiato più di tanto. Il problema è che in quattro anni è aumentato il peso delle applicazioni, capito? Quindi non può essere veloce come era quattro anni fa. Certo, poi ci sono quelle applicazioni che stanno sempre attive, quindi sono quelle che ti ciucciano la batteria. Prima ce la facevo, questo c'ha 3 giga di RAM, non sono tanti, però allora erano tanti, erano parecchi, dai. Questi gli aggiornamenti che fai, se tu aggiorni tutto diventa un cingolato. No, hai messo, infatti la fregatura molte volte è proprio quella, cioè se lasci gli aggiornamenti in automatico, se lasci gli aggiornamenti in automatico, cazzo, ti si ingolfa il telefono. Ma tu mi stai contagiando con questi sbadigli? Niente, quindi adesso a livello così di curiosità stavo chiedendo a Antonello, insomma, tutte cose, dai. Mi sa che vi saluto anch'io, mi guardo il secondo tempo dalla partita se riesco a tenere gli occhi aperti, e poi mi riposo che domani mi aspetta un'altra giornata, un tour de force. Un abbraccio a tutti e due, a te Alessio, riprendi Gianni e poi fai girare. Dai, mi sa che ti seguo anche a ruota, Franco, tanto mi sta, piano piano mi sta calando la palpebra anche a me. E quindi dai, salutoni Fra, salutoni Antonello, ben sentito, dai, ci aggiorniamo quanto prima, all'improvviso come sempre, dai, buona serata a tutti, ciao ciao. Ehi, ciao a tutti e due, ci sentiamo, statevi bene, buonanotte, buon tutto. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.